Grazie a chi è venuto sfidando gli uragani, i cicloni, le tempeste tropicali che ormai si ripetono a Roma, anche a Roma, e per questo uno degli appuntamenti del nostro ciclo sulla modernità che vede oggi protagonista Carla Pasquinelli, che è una figura talmente organica e talmente legata a questa fondazione che quasi non sento l'esigenza di presentarla, perché fa parte del nostro comitato dei garanti ed è direttore responsabile. Sì, non vieni mai alle riunioni. Nessuno l'ha mai comunicato, sì. Io sono. Mi pare di mi sbaglio. Non mi vuole. Comunque, invece, direttore responsabile della rivista che qui nasce dentro la fondazione e che si chiama Parole Chiave, e dobbiamo a lei anche alcuni dei numeri più interessanti della rivista. Sono quasi tutti interessanti, ma insomma voglio citarne alcuni che sono anche legati ai temi che lei affronterà nel corso del nostro incontro e che sarà dedicato a modernità e culture. È un titolo estremamente vago e vasto, però siccome sui temi collegati a questo titolo Carla Pasquinelli lavora da molti anni, anzi da molti decenni, credo che lei sarà brava. Novantenne, sì, lo so. Beh sì, insomma, come molti di noi, credo che sarà bravissima nel stabilire da sé i limiti e i confini, ma anche l'estensione reale della sua lezione, che adesso andiamo ad ascoltare. Dopodiché avremo due interventi che le porranno le opportune domande secondo la formula di questi nostri incontri che abbiamo ormai sperimentato da tempo. Sono qui ai nostri lati il dottor professor Sarnelli e la professoressa la dottoressa Fida. Sì, no, lui mi sembrava molto volere abbassare il suo profilo, abbassare il profilo va sempre bene, piuttosto che alzarlo in maniera indebita. No, anche quello degli altri quando loro sono d'accordo. Ecco, e quindi adesso diamo la parola a Carla Pasquinelli. Io mi dispiace, intanto voi avete fatto felici 100 persone oggi, che sono i miei studenti a Napoli, perché non ho fatto lezione dovendo venire qui a fare questa cosa, che quindi è già una buona opera. E io in effetti sono molto imbarazzata, nel senso che più uno conosce un argomento e ci ha lavorato, più ne è nauseato e meno ne è in grado di parlare. Questa è la situazione in cui sono oggi. Prima di iniziare e un pochino di capire che taglio, perché francamente come ha detto giustamente Gabriella con sua solita gentilezza, è un argomento generico, vago, è vero, quindi si può, dipende come lo si taglia. Io ho pensato un po' come tagliarlo prima di venire, tagliucciando delle pagine che stavo scrivendo, e sono un po' incerta. Beh, insomma, vorrei, tutto dipende dal tempo che ho a disposizione. 40 minuti. C'è una vera lezione. 40. No, perché poi sei. Va bene. Allora, prendiamo questo tema. Qui il tema è al plurale, culture. Solo che per arrivare a culture bisogna fare un itinerario che passa prima attraverso cultura. La cultura come un concetto, che è un po' il concetto cardine della disciplina che io insegno, che è l'antropologia culturale. Quindi è un po' un discorso in qualche misura disciplinare, che però allarga anche i suoi ormai confini, oltre i limiti ristretti di una singola disciplina. Ora, la cultura è quel dispositivo simbolico che la modernità si è data per pensare l'altro. Ora, per altro in genere si intende una convenzione discorsiva attraverso cui si indicano quelle popolazioni del globo che si sono sviluppate al di fuori dei confini dell'Occidente. E ormai appunto dico questo perché altrimenti può sembrare qualche cosa di assolutamente arbitrario e generico questo ritorno sull'altro. È proprio una convenzione discorsiva stabilizzata. Pertanto, quello dell'antropologia è un sapere relazionale che nasce appunto e si costruisce attraverso una relazione asimmetrica di dominio con l'altro, tra noi e gli altri, tra la modernità occidentale e gli altri. Naturalmente gli altri, l'altro di cui che è assunto a questo ruolo simbolico così importante per la disciplina, ma in genere per l'Occidente, è quello che si è scoperto al momento di quella che è stata definita da Todorov la più grande, come dire, il più grande evento della storia dell'Occidente, che è la scoperta dell'America. È lì che si comincia a depositare un terreno vago di pratiche discorsive su cui si edificherà la futura antropologia discorsiva, la antropologia culturale. Quindi è attraverso una certa però costruzione dello sguardo dell'altro sull'altro da parte dell'Occidente che si consolida nel tempo l'autorappresentazione della modernità occidentale intesa come qualcosa di diverso e superiore al resto del pianeta. Credo che forse devo un po' tagliare questa parte iniziale. Voglio solo dire che questa alterità, questo altro con cui a seguito della scoperta dell'America in qualche misura la modernità europea, quindi intendo dire, insomma, il primo che riflette sull'altro in maniera organica è Michel de Montaigne, e che passa tutto attraverso tutta una serie di autori a cui non farò riferimento. Non è né una prospettiva storica, cioè non ricostruisce l'emersione, non è il nostro sapere, non è né una prospettiva filosofica, ma è semplicemente abbiamo a che fare con dei materiali scritti, è un sapere testuale, una serie eterogenea di discorsi che hanno preceduto la formalizzazione dell'altro nel corso che diventerà appunto l'oggetto relazionale dell'antropologia culturale, che hanno preceduto di alcuni secoli la fondazione della disciplina. Nel senso che le prime quello con cui noi abbiamo a che fare non sono appunto non è un resoconto storiografico, non è una speculazione filosofica, ma abbiamo a che fare con delle pratiche discorsive che emergono, si materializzano nel corso di alcuni secoli, a partire da esperienze quotidiane di ordinaria violenza all'interno di quelli che sono stati i protagonisti di questa scoperta, del nuovo mondo, da prima lo stesso Colombo, poi i primi viaggiatori, i conquistatori, i mercanti, funzionari coloniali che nel corso di tre secoli hanno messo in discorso l'altro, nel senso lo hanno narrato a partire proprio, e quindi è al di là di ogni concettualizzazione. Comincia attraverso queste. Il compito dell'antropologia è stato quello, lo fine dell'antropologia è stato quello di rintracciare le prime superfici di emersione di quello che diventerà il proprio oggetto, e che era andata a cercarla proprio, a cercare proprio nelle, in quelle scritti periferici, come sono le relazioni dei viaggiatori, dei missionari, i racconti delle guerre di conquista, i funzionari, come dicevo, coloniali, l'epoca, durante l'epoca dei grandi viaggi fra il 6 e il 700, tutti i racconti, insomma, di usi e costumi strani a cui veniva, con cui venivano in contatto appunto persone che non avevano nessuna qualifica per parlare dell'altro. Poi saranno i missionari ad appropriarsi dell'altro e per parlare invece dell'altro, ma che comunque attraverso dei testi infiniti che arriveranno, che prima o poi costituiscono, ecco, le condizioni storiche perché compaia una nuova disciplina, un nuovo oggetto di discorso. Quindi è tutto questo di cui sto trattando, in maniera, mi rendo conto, un po' approssimativa, è il sostrato discorsivo che attende di essere trasformato in una nuova unità discorsiva che si materializzerà solo verso la metà dell'Ottocento, quando a un certo punto quest'altro, passando attraverso una serie di metamorfosi, si materializzerà nel primitivo. Cioè, da prima l'altro è stato visto come una bestie selvaggi, primitivi finalmente, e dove lo scarto per cui si può parlare di, come dire, si può cominciare a tessere, a precostituire poi davvero la possibilità di arrivare alla nascita dell'antropologia, è il passaggio dal primitivo, che non è dal selvaggio, che è un individuo, di un uomo di natura, quindi privo di regole, al primitivo, che invece non è più una somma di individui, ma sono membri di una società di cui condividono e rispettano le regole. Che cos'è che provocherà questo passaggio dal selvaggio al primitivo? È l'emergere di una nozione sempre più stabile, di nozione di società primitiva, che verrà in qualche misura, diventerà un concetto chiave di una particolare teoria, che è l'evoluzionismo. L'evoluzionismo, intendendolo l'evoluzionismo naturalmente ha una doppia anima, è un Spencer e Darwin, non inutile ripercorrere questo intreccio tra un biologo e un ideologo come Spencer. Quello che comunque l'antropologia sceglierà sarà Spencer. Il primitivo rappresenta il punto di partenza di un processo teleologico che si svolge per stadi successivi fino a raggiungere il suo acme con la società moderna. In altre parole, il primitivo fornisce all'evoluzionismo la possibilità di pensare un'evoluzione culturale che è organizzata per stadi di complessità crescente, che se vanno appunto attraverso cui stadi dell'evoluzione culturale che si muovono lungo un vettore di tempo all'infinito, il progresso, la nozione, come dire, illuminista di progresso, attraverso cui tutti i popoli saranno, tutte le culture, tutti i popoli sono destinati a passare. Quindi l'antropologia nasce, diciamo, sotto questi padrini, sotto il patronage dell'evoluzionismo, che ha bisogno di questa nozione di primitivo per poter pensare la modernità, perché la modernità appunto esiste nella misura in cui può definire se stessa rispetto a qualche cosa che la nega e che però è il presupposto necessario perché possa esistere come tale. Quindi la nozione di modernità ha come contrappunto per la propria autodefinizione il primitivo, un'autodefinizione che però sarà sempre segnata da delle relazioni di dominio che peseranno fortemente sulla nascita dell'antropologia moderna. Ecco, io credo che molti, insomma tutti pensiamo che l'evoluzionismo è stata un'ideologia, ma prima ancora di essere un'ideologia si è configurata come il presupposto epistemologico, perché mette in gioco, come dicevo prima, due nozioni, quella di primitivo e di moderno, che si implicano a vicenda. Quindi il primitivo porta con sé l'idea di uno stadio originario, che presuppone poi una successione di stadi più evoluti, al cui apice troveremo la modernità imperiale. Quindi la modernità occidentale, la modernità, non a caso l'antropologia nasce in Inghilterra nella seconda metà dell'Ottocento, ultima delle discipline delle scienze sociali, e prevede, appunto, fornisce alla narrazione, diciamo, della modernità quel punto di riferimento prospettico che è il primitivo, la cui negazione permetterà alla narrativa della modernità di fondare la propria autorappresentazione. Naturalmente, ora entrando più dettagliatamente, questa è un po' la cornice di riferimento. Il primo a parlare di antropologia, di cultura, naturalmente la cultura voi sapete che è un concetto bizzarro perché che genera non poco sconcerto, per esempio quando ne parlo con gli studenti, perché all'inizio la cultura ha un significato molto particolare, molto più facile definire dei concetti per negazione che per in maniera assertiva. Il contrario di cultura in senso così è ignoranza, no? Nel senso ovvio del termine che usiamo sempre. Il contrario invece di cultura per, come dire, l'antropologia culturale è la natura. Quindi nel senso che siamo su uno slittamento di significati che porta su tutt'altro registro. Questa prima definizione di cultura di Taylor, io vorrei, ecco, vi dico il mio itinerario. Il mio itinerario è seguire un po' le metamorfosi di questo concetto di cultura nel tempo, a partire da questa definizione di Taylor, per arrivare, insomma, alle cose più recenti. Ecco, con Taylor si viene a concretizzare per la prima volta una nuova unità discorsiva. Per avere una nuova unità discorsiva bisogna avere un concetto, un oggetto e dei metodi. L'oggetto ce l'abbiamo, che è la società primitiva, il concetto è la cultura e i metodi variano da scuola a scuola. Quindi Taylor, prima di Taylor l'antropologia non esisteva, però esisteva tutto quel tessuto prediscorsivo, intendendo una disciplina come un insieme di discorsi, pianamente, un insieme prediscorsivo che ha confondato le condizioni di possibilità perché emergesse una nuova unità discorsiva che si chiamerà poi antropologia culturale. Edward Bennett Taylor, pubblica nel 1871 un libro non ancora tradotto in italiano che si chiama Primitive Culture. Primitive Culture, cultura primitiva, che è stato assunto poi come atto simbolico della fondazione di una nuova disciplina, delle discipline antropologiche. Ora, viene considerato ovviamente, wow, ho già 20 minuti di... Ah, ok. Quello che si può dire di Taylor è un padre fondatore, ovviamente, perché è fondatore di una nuova unità discorsiva, ma soprattutto è anche, mi piace di più questa espressione, utilizzare la definizione di Clifford Geertz, che è anche un autore. In che senso è anche un autore? Perché essendo un fondatore di discorsività, lui apre una strada che non solo sarà il primo a percorrere, ma che soprattutto renderà possibile anche ad altri di percorrere. Quindi l'autore, dice Geertz, autorizza molto più di un libro, molto più di una teoria, di una tradizione o di una disciplina. Autorizza proprio un solco in cui altri libri e altri autori troveranno alternativamente un posto. Questo è un po' il percorso che faremo. Però questo posto, naturalmente, che troveranno i vari autori, le varie discipline, le varie interpretazioni, naturalmente sono molto diversi dall'una all'altra. Tant'è che io ho fatto una specie di schema un pochino... si faceva già all'epoca... Sì, si faceva già, poi noi abbiamo lavorato insieme a Napoli, che si chiamava uno schema che era diviso in tre fasi, la fase concreta, la fase astratta e la fase simbolica. Poi si è arricchito il mio schema, però lo chiudo prima. Allora, Taylor in questo modo, attraverso questo aiuto che ci ha dato Geertz, ha stabilito l'ordine del discorso all'interno del quale dovrà muoversi chiunque voglia scrivere o lavorare, o leggere, di antropologia, soprattutto scrivere. Quindi ha prodotto qualcos'altro, oltre che essere una fondazione, una disciplina, ha prodotto la possibilità e le regole per la formazione di altri testi, di altre teorie. Quindi possiamo considerarlo un padre fondatore, ma soprattutto un fondatore di discorsività. Questa nuova unità discorsiva ha il suo fulcro, perlomeno quello di cui ci occupiamo qui stasera, nel concetto di cultura che dà Taylor. Credo di ricordarmelo a memoria, ma non si sa mai. E Taylor è quello che in maniera cattivissima chiedo sempre agli studenti e alle dame, sì, anche tu a me mi conforta, perché in genere invece non succede, dice, oh, ma come sei antipatica. Mi ricordo che quando ero molto giovane, che avevo cominciato a fare esami a Firenze con Seppilli di antropologia, mi era appropriata di questa, mi era piaciuta molto questa nozione, di concetto di cultura, per cui chiedevo a tutti gli studenti all'esame una definizione del concetto di cultura, e naturalmente non ero mai contenta, dicevo no, non va bene, perché avevo l'idea un po' vaghe, secondo me, dicevo no, guardi, e alla fine una volta dice, senta, ce lo dica lei, io ovviamente me ne guardai bene, poi ci ho messo un sacco di tempo a cercare di scrivere su cos'è questo maledetto concetto di cultura. Per adesso diciamo che cosa ne pensa Taylor. Taylor dice che la cultura, cito a memoria, tu controllate, la cultura civiltà è quell'insieme complesso che implica, no, quell'insieme complesso. Civiltà, mi dispiace, civilizzazione. Allora, è quell'insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto e, attenzione, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come un membro di una società. Anche voi avete questo ritmo. Sì. Ta. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire tre cose che io metto in luce. Intanto che è un insieme complesso, quindi che, come faccio sempre ai miei studenti, non stanno le abitudini, i costumi, le credenze, l'arte, la morale, in questo ordine così, un cumulo di oggetti, no, ha un tutto strutturato in cui ogni parte, questo è molto importante per le conseguenze anche nefaste che porterà questa nozione, ma non solo nefaste, per cui ha un tutto strutturato in cui ogni parte è rappresentativa del tutto e che fonderà la possibilità stessa di un certo tipo di, che è fondamentale, di etnografia, che può arrivare al tutto a partire solo da un singolo tratto. Per esempio, questo lo vedremo, perché il tipo di etnografia di Malinowski sarà alla fase, non c'è fase Malinowski è senza fase, senza fase, così, random. Malinowski fa, voi sapete tutti chi è Malinowski, sì, Malinowski è, come dire, mitico fondatore dell'osservazione partecipante, che lui non ha mai sottoscritto, non l'ha inventato lui questo termine. Io mi sono andata a leggere accuratamente, peraltro un libro bellissimo, Argonauti del Pacifico Occidentale, che esce nel 1922, e e è un libro veramente molto bello, molto divertente, e ho cercato accuratamente dove veniva detto osservazione partecipante, non l'ha mai detto. Pare che l'abbia inventato uno della scuola di Chicago molto, un po' più tardi, e dando una formalizzazione a invece quella che era una pratica discorsiva, che però non era mai stata tematizzata dall'autore stesso. Comunque, quello che è interessante, gli argonauti, lo faccio subito questo esempio perché poi l'etnografia è sempre un po' più divertente di queste nozioni concettuali, ma perché serve a capire meglio questo concetto di cultura. Perché gli argonauti del Pacifico, che sono, siamo nelle isole Trobian del Pacifico occidentale, in una serie di isolette, che hanno alcune particolari caratteristiche, però ora non vi posso raccontare Malinowski. Il fatto è, oppure tutti lo conoscete naturalmente, ma il punto è che lui prende in considerazione un solo aspetto della cultura, un determinato aspetto della cultura, cioè una di quelle che si chiama il kula. Il kula è un'usanza cerimoniale che tiene un po' insieme tutta la vita di questi trobiandesi. Quello che è interessante è che lui, analizzando questo solo tratto culturale, cioè una di queste, diciamo, no, di queste cose che Taylor include nella sua definizione, un atto cerimoniale, in realtà arriva al tutto. Infatti presenta, come dire, la sua etnografia come una etnografia totalmente completa di queste dei trobiandesi, attraverso l'analisi di un solo aspetto della loro vita, che però è proprio un fatto sociale totale che mette in collegamento tutti. Questo grazie a che cosa? A questo vecchio, con Malinowski siamo del 22, grazie a questo vecchio concetto di cultura fondativo di Taylor, che la cultura è un insieme complesso, cioè ha reso possibile un certo tipo di molti più anni più tardi di etnografia, di ricerca sul campo, che si è differenziata moltissimo da quelle che erano le pratiche di campo degli etnografi precedenti, che quando arrivavano lì si mettevano in maniera pedissequa a analizzare tutti gli aspetti, senza accogliere invece l'essenza. Ecco, qui con questa invece appunto, questa impostazione, si può arrivare al tutto attraverso una singola parte, quindi è molto importante, per questo questa nozione, questa definizione di cultura di Taylor ha potuto avere una vita così lunga fino ad oggi, tutto sommato. Che cosa ci dice ancora questa cosa? Ci dice tante altre cose, ma insomma non siamo a lezione. Dice semplicemente che, perché la chiamo la fase concreta? Perché c'è in ognuna di queste, se sono tre le fasi, fase concreta, fase astratta e fase simbolica, qui siamo nella fase concreta perché Taylor, da buon positivista, pensa che la cultura sia un fatto sociale, in senso durkheimiano, abbia una sua sostanzialità, sia qualche cosa di reale. E quindi c'è sempre in queste definizioni o in queste analisi di queste fasi diverse un termine in pole position, e il termine in pole position in questa caso fatto è il costume, che ha proprio questa densità simbolica, perché se si pensa qui stiamo al momento in cui si genera non solo una nuova unità discorsiva, ma si genera anche un vocabolo che ha il significato di un vocabolo che già esiste con dei propri significati, che è il concetto, che è la cultura, che viene investita appunto di un altro significato, e dove il costume ha costituito un elemento dirompente nella costruzione di questo significato, perché nel concetto nell'idea che noi abbiamo della cultura in senso appunto elitario, di formazione dell'individuo, come ce l'avevano poi soprattutto o anche gli illuministi, che detestavano, cioè Voltaire era un feroce critico dei costumi, che erano qualcosa di retrivo, eccetera eccetera, nel momento in cui mette dentro il concetto di cultura e il costume, fa una rivoluzione epistemologica, perché introduce all'interno di una nuova unità discorsiva una categoria fondamentale che ne segnerà appunto la cesura rispetto al termine corrente di cultura versus ignoranza, invece così. E questo è importante, per cui ho accentuato molto questo senso, questa importanza del costume. Naturalmente l'altra cosa che distingue una fase dall'altra è anche la metodologia che viene usata, ma non c'è modo di parlarne, andiamo oltre. La cultura, Taylor ha due modi di leggere la cultura. Uno, perché Taylor appunto è un evoluzionista convinto, quindi ha ripreso le ipotesi spenseriana dell'evoluzione, lui la vede come l'evoluzione culturale dal semplice al complesso per stadi, un processo all'infinito, di cui l'unico interprete e protagonista è la cultura, cultura con la C maiuscola, adesso tutti i popoli della terra sono già transitati come noi, occidente, modernità, come dire, al top di questa scala di valori, del progresso, o gli altri, per esempio i primitivi, i nostri contemporanei, che però non sono altro che l'immagine sbiadita dei nostri antenati di un tempo. Quindi ha questa prospettiva evoluzionista che proprio in questa prospettiva evoluzionista ogni stadio non è fatto da singole culture, ogni stadio raggruppa quelle culture che hanno sembrano partecipare a un certo livello, hanno delle cose in comune. Allora, quello che viene fuori è che una negazione totale della storia, perché l'evoluzione è negazione della storia, non ci sono percorsi individuali, soggettivi, eccetera, irrepetibili, percorsi, cammini imprevisti, no, tutto è già previsto, quindi c'è un tipo di, come dire, di visione claustrofobica della storia, della cultura, perché tutti dovranno transitare attraverso quelle tappe o meno. Quando lui, questa è la sua visione. Quando io ho dato la definizione, lui mi ha corretto sbagliando, dicendo cultura o civiltà, però aveva ragione a dire civilizzazione, perché le due anime che sono ancora dentro Taylor sono da una parte l'anima evoluzionista e anche illuminista del progresso, per cui c'è questa idea degli stadi di questo processo all'infinito, verso sempre il miglioramento. Nello stesso tempo che lui usa questa visione, quando parla dell'evoluzione dell'umanità, ma quando si concentra, perché poi un po' di studio, un po' di campo l'ha fatto pure lui, ha fatto dei questionari eccetera, quando si concentra lavora invece su una singola cultura, lui su un singolo popolo, un gruppo umano, ha un altro concetto, che è questo di concetto di cultura, che è un concetto molto più pratico per fare la sua indagine, e che è molto diverso. Quindi noi vediamo a questo inizio di questa fase, io ho saltato tutto questo tenere insieme ancora due vocaboli che si implicano a vicenda e che in qualche misura si contaminano. Questa spiegazione, questa interpretazione di cultura molto importante, che non a caso fonda una nuova disciplina, rimarrà egemone per molti anni, per circa molti anni, 30-40 anni, finché non compare si annuncia una svolta. La svolta è il passaggio molto importante, e qui arriviamo al tema che mi è stato attribuito poi da chi ha organizzato questo seminario, o Lucia o Gabriella, non so, le culture, modernità e culture, dove appunto non si tratta più di parlare di cultura, ma di culture. L'autore di questa, mini rivoluzione o massi rivoluzione, perché tant'è che poi è Franz Boas, un geografo, che è considerato l'uomo che ha reso l'antropologia una scienza. Se Taylor è stato un padre fondatore, però a rendere l'antropologia una scienza è stato Franz Boas. La storia di Boas è molto carina, ma non ho tempo, ma io ci vado lo stesso un po'. Perché è importante, nel senso che lui era un tedesco, un giovane. È importante. È importante. Sì. è importante, no, è importante perché è come San Paolo sulla via di Damasco, solo che la sua via di Damasco furono gli Inuit, cioè una sperduta popolazione eschimese, presso i quali lui era andato a fare delle ricerche geografiche, naturalmente. E mentre faceva queste ricerche di geografia, per cui non aveva niente a che vedere con l'antropologia, ma nemmeno sapeva cosa fare, cosa fosse, lui si rende conto che gli Inuit, che è un gruppo appunto eschimese locale, possedevano tutta una serie diversa di categorie cromatiche che influenzavano la loro percezione del colore dell'acqua marina. Quindi lui si rese conto che perfino le nostre percezioni fisiche possono essere influenzate da fattori culturali. Lui si rese conto di questo, quindi da lì cosa fece? Gettò all'ortiche la tonaca dei geografi e lasciò appunto lo studio dell'ambiente, tornò in Germania a fine dei suoi studi e poi ritornò per sempre nel Nord America e con lui proprio muta totalmente il panorama della nuova disciplina dell'antropologia culturale. Muta naturalmente facendo un profondo mutamento, una profonda riflessione sul slittamento di significati del concetto di cultura. Non si può parlare più di la cultura unica protagonista di un percorso dell'umanità a cui tutti avrebbero dovuto transitare verso dall'una sempre verso una direzione di continuo miglioramento al cui apice c'è la modernità occidentale, ma lui parla appunto di culture diverse, ogni cultura è diverse. Quindi una pluralità di culture che hanno percorsi assolutamente imprevedibili, individuali, diverse, che costituisce appunto, cambia totalmente lo scenario dell'antropologia, che è appunto una coabitazione complessa di dove ogni cultura ne presuppone le altre e che è collegata tra loro tra un intreccio complesso di scambi. Quindi pluralità di culture e che danno luogo a una teoria, insomma lui tenta una teorizzazione, lui non era un grande teorico, però la sua interpretazione l'ha detta, e chiamò la sua teoria particolarismo storico, nel senso che poi di fatto ha costituito una vera e propria rifondazione degli studi antropologici, perché una cultura appunto, le culture hanno forme naturalmente infinite e imprevedibili e che per conoscerle bisogna ripercorrerne appunto i percorsi, ripercorrerne appunto la storia, le usanze attraverso una prospettiva che ne ci porti, ci permetta di individuare lo stile di vita che fa di ogni cultura una individualità irripetibile. Naturalmente è inutile dire, ma lo dico, che dici? Che lui ha avuto una fortuna, naturalmente, una fortuna, poi l'ha scelto, è andato a stare negli Stati Uniti d'America a cavallo fra 800 e 900, dove c'erano ancora tutti quei pelli rosse, tutti quegli indiani, cioè tutto quella, come dire, la possibilità insomma di vedere come questa pluralità di culture. Pensate che all'epoca lui riuscì a catalogare più di 300 lingue che poi sono lingue tagliate, come avrebbe detto Canetti, scomparse, culture che lui è riuscito a ha fatto dei repertori straordinari di queste culture che scomparivano, anche con questo senso di malinconia, di disperazione, diciamo, di un etnocidio spaventoso. L'etnocidio vuol dire la perdita, insomma, l'uccisione delle culture, e che è riuscito proprio grande a questo, come dire, stare dentro questa realtà così plurale di culture diverse, gli ha permesso di arrivare a questa sua teoria appunto del particolarismo storico. Lui critica, è un critico irriducibile dell'evoluzionismo, giustamente, e però appunto il suo particolarismo culturale porterà poi anche un po' un piccolo frutto avvelenato, che è il relativismo culturale, che io sono una appassionata delle tematiche del relativismo culturale, di cui vi faccio naturalmente grazia, che però nascono appunto all'interno della sua, dove il relativismo culturale, scusate, questo mi sento tenuta a dire, non è un una qualche cosa che ha a vedere con il relativismo etico, come da molti anni, da alcuni anni, anche dal libro Ratzinger, Pera, Camigerato, si è continuato a presentare, come dire, ogni riferimento al relativismo come un'opzione etica o come il rifiuto di ogni opzione etica. Per gli antropologi il relativismo culturale è uno strumento della cassetta degli attrezzi degli antropologi, perché una cultura è come una lingua: se uno vuole capire l'inglese se lo deve andare a imparare, se uno vuole capire una cultura se lo deve un attimo andare a passarci, transitarci dentro. Quindi è semplicemente questo, che una cultura per essere capita va vista all'interno delle sue naturalmente così. Ah, naturalmente cambia un po' il suo concetto di cultura, che diventa più, come dire, più mirato rispetto sull'individuo, eccetera, eccetera, e ce ne andiamo in un'altra parte. Ce ne andiamo in un'altra parte non senza avere appunto niente, ce ne andiamo in un'altra parte e arriviamo alla fase astratta da cui ci ha transitato Boas, transitandoci la cultura e le culture. La fase astratta è fatta un po' da tutti gli allievi di Boas. E l'attenzione si sposta dai costumi ai modelli, cioè in questo senso il concetto di cultura che con Tyler aveva visto, avuto questa grandissima ampiezza, no? Perché qualsiasi altra abitudine e capacità acquisita dall'individuo come membro di un gruppo sociale, qui invece che Boas a sua volta aveva ancora più da una parte allargato, perché ci aveva incluso giustamente anche la lingua, e nella fase astratta c'è la ricerca già di un concetto un po' più specialistico di cultura, che viene a coincidere con i sistemi di valore e i modelli e le norme di un gruppo sociale. Quindi la cultura continua a mantenere la connotazione di insieme complesso, quindi sempre questo rapporto parti tutto, che dia coerenza appunto al sistema, però appunto spostando la propria attenzione dai costumi ai modelli. E quindi la cultura è intesa come un sistema concettuale, come dirà Paolo Rossi, diventa un costrutto concettuale, ha un carattere astratto. Questa interpretazione di cultura è stata molto importante soprattutto per Simonetta Piccone Stella, ma certamente uno dei suoi autori, che è Parson, l'ha ripresa proprio, perché a questo punto, in questa versione, il concetto di cultura diventa fortemente egemone all'esterno della disciplina e viene ripreso da psicologi e soprattutto da sociologhi come Parson, che vedono nel concetto di cultura il cuscinetto, l'anello mancante per cercare proprio quello di stabilire un rapporto fra l'individuo e il sistema sociale. E quindi ha avuto una forte influenza. L'eredità di Boas è delle più varie, c'è il superorganico di Kreber, ve ne facciamo grazia, ma invece mi piace moltissimo un Ruth Benedict, che è un'antropologa che ha elaborato in maniera molto sofisticata la nozione di modello di cultura, di cui comunque basta. Dopodiché, torno indietro, ho scritto moltissimo su Ruth Benedict, va bene, benissimo. Sì, soltanto che quello che avevo scritto l'ho lasciato a casa, qui c'è un'altra cosa, però qualcosa mi pare, sai che io appena uno scrive qualcosa poi è autorizzata a dimenticarsela, allora l'abbiamo messa lì, no? È tipico, insomma, voi sapete che appunto la scrittura ha fregato moltissimo la nostra memoria. Lo dicevano anche dei vecchi saggi in Somalia quando facevo ricerca. In Africa, quando muore un vecchio, si dice che è un'intera biblioteca che scompare, insomma, quindi a me questi contenitori umani delle Ruth Benedict ha una nozione di modelli culturali molto interessante. Dice che anche lei mantiene questa idea della totalità, di una cultura come una totalità, di un tutto integrato, e dice che appunto ogni cultura è fatta da una costellazione di tratti diversi, che possono anche però ricorrere da una cultura all'altra, cioè ci possono essere presenti molti tratti che sono presenti anche in un'altra cultura, ma quello che fa la diversità tratta rispetto a un'altra cultura che magari ha alcuni dei suoi tratti, è l'insieme, la costellazione, la particolare configurazione che questi tratti assumono al suo interno. Ecco, questa quindi la cultura vista come una modellizzazione degli elementi che la compongono, che la rendano assolutamente diversa proprio grazie allo stile che essa ha. E poi lei ha fatto delle cose, ha scritto un libro che ha avuto un successo pazzesco a livello mediatico, che si chiama Modelli di cultura, che è di una noia mortale, detto fra noi, e che fa una, no, non è una noia, io l'ho provato poi dopo ogni tanto, però fa quattro tipologie di culture diverse, attribuendoli, come dire, dei nomi in parte presi da Nietzsche, Apollinei, Dionisiaci, Apolline e Dionisiaci, e poi gli altri due ripresi in maniera più terra a terra da chi? Da chi quindi? Com'era? Ah, megalomani, certamente, perché facevano il potlatch, quindi erano insopportabilmente megalomani, erano quelli che continuavano a dare doni per obbligare l'altro a restituire doni, quindi megalomani assolutamente. E gli altri quali erano? Gli altri ce n'è di un altro tipo. Insomma, passato questo, invece poi ha scritto un libro bellissimo, secondo me, che è Il crisantemo e la spada. I dopo paranoici, grazie, c'erano i paranoici. Insomma, però veramente poi quello che è bello è che lei da giovane purtroppo aveva un vizio, scriveva poesie. Non era molto di successo come scrittrice di poesie, però ha portato, come dire, dentro la sua scrittura un qualche cosa in più, per cui è di una piacevolissima lettura. La cosa interessante è che durante la guerra... No, dedicato, è una, come è, sì, è già, sì, problema, no, ma il problema no, è che il, come dire, nel 44 lei è stata incaricata dal Dipartimento di Stato di fare una ricerca sui giapponesi dopo Pearl Harbor, per cui, perché c'era questo grande shock che era... E quindi lei doveva fare questa ricerca sul campo, solo che lei non poteva, essendo una nemica del Giappone, non poteva andare naturalmente sul campo. Però cosa ha fatto? C'erano, e qui anche qui è bizzarra la cosa, c'erano un sacco di giapponesi negli Stati Uniti, se non che i poveri giapponesi non stavano liberi cittadini, ma erano rinchiusi in dei campi, non di concentramento, ma in dei campi, insomma, come quelli che rinchiudiamo noi adesso giù a Lampedusa, qualcosa del genere. E rinchiusi in quei campi era un po' difficile fare ricerca, tanto perché la loro maniera di vivere era molto alterata rispetto agli stili abituali, e poi perché lei era comunque una nemica. Però si intesero molto bene, tant'è vero che lei li ringrazia poi negli acknowledgement del libro. E attraverso, e la cosa singolare, un libro bellissimo in cui spiega tantissime cose, se ne può dire qualcuna, ma insomma, per esempio, io una volta ho scritto un articolo che non bisognava qualificare i martiri palestinesi, martiri nell'intifada, durante l'intifada non si poteva chiamarli kamikaze, perché kamikaze non ha niente a che vedere con quello che loro fanno, nel senso che kamikaze era erano quelli piloti suicidi che si gettavano sulle portaerei americane per farli esplodere. Non erano dei martiri, erano molto seccati di doverlo fare, lo facevano non per problemi religiosi, perché c'era una società anche molto laica, ma per pagare il proprio on verso l'imperatore, cioè il proprio debito. Ogni suddito ha un debito di onore nei confronti dell'imperatore, quindi questi non potevano sfuggire a questo on, con cui appunto kamikaze, porre il vento, ora è inutile raccontare questo. Ecco, quindi voglio dire, applicare questo termine a quelli che invece vedono il martirio logico, lo fanno per ragioni di martirio logiche, cioè significa non capire che cosa stanno facendo. Cioè questo uso, trasposizione di parole da una forma di vita all'altra non funziona, ma e noi vedo continuamente genera dei disastri. L'altro, la Benedit, insomma, per continuare ma poi anche per chiudere, mentre fa, naturalmente il suo problema era come arrivare a capire. E alla fine ha detto, a un certo punto ho capito che devo smettere di pensare nei termini della mia cultura e cercare di mettermi nel, sì, va bene, non è solo il vecchio punto di vista del nativo di cui parla prima Malinowski e poi Geertz, ma cercare di capire quello che, e in qualche misura ci riesce, ma la cosa bizzarra, e questo di nuovo quel perfido Clifford Geertz a farlo notare in quell'opera divertentissima che è Opere e Vite, che mentre lei fa questa etnografia sul Giappone, fa contemporaneamente un'etnografia sull'America, sugli americani, perché continuamente si ha sempre il doppio binario, cultura della vergogna e cultura della colpa, cioè c'ha tutte, quindi dà nel contempo due etnografie, e parlando del Giappone parla anzi tutto sommato molto di più dell'America. Continuiamo a correre in questa corsa sfrenata che ci porta scriteriatamente a saltare moltissimo per vostra fortuna e arriviamo alla terza fase, siamo agli anni 70 del secolo scorso, e tiriamo fuori un nome che è, formalmente l'abbiamo già citato due volte, che è Clifford Geertz. Qui a un certo punto Clifford Geertz è, come dire, quello che mette in crisi tutta questa impostazione che ho costruito fino adesso, che aveva costruito il povero Taylor, mette in discussione la nozione di insieme complesso che è diventata qualcosa di assolutamente inservibile, bisogna trovare un concetto più agile e più mirato. E dà la sua definizione di cultura. Non si tratta più, allora siamo alla terza fase, la fase simbolica, quindi prima fase concreta, la fase astratta, la fase simbolica, e la definizione di cultura che dà Taylor è quella di... La cultura non è altro che ragnatele di significati tessute dagli uomini. In altre parole, la cultura è un insieme di significati che l'antropologo deve interpretare, cioè dietro c'è tutta appunto la svolta ermeneutica a cui finalmente buon ultimi erano arrivati gli antropologi, perché insomma tutti c'erano già passati, Derrida, Lacan, eccetera, eccetera, arrivano alla fase simbolica dove il metodo, la cultura diventa appunto un sistema simbolico, il problema è quello di capire l'oggetto centrale sono i significati, cioè si può avere accesso a una cultura, all'altro, solo se si ha accesso ai suoi significati. Naturalmente i significati non sono qualcosa di privato, di soggettivo, ma sono qualcosa di condiviso. Spetta all'antropologo di cercare di interpretarli, però l'interpretazione che dà l'antropologo non è un'interpretazione di prima mano sulla cultura, ma deve passare attraverso le interpretazioni dei locali, cioè dei soggetti della cultura, e quindi parla di l'interpretazione dell'antropologo è di significati, significati, cioè l'antropologo è come uno che cerca di sbirciare, come si dice, di leggere sulle spalle, di leggere un testo, perché la cultura appunto, ecco, grazie, dimenticavo, la cultura è come un testo che va decifrato, e per decifrarlo bisogna avere accesso ai suoi significati, se non che, e quindi bisogna interpretazioni, soltanto che lui non si rende, insomma, poi sarà molto, come dire, criticato su questo da Crapanzani, eccetera, perché i significati dei locali sono condivisi, cioè noi quando diciamo nel senso che sono pubblici, dice lui, con significati, perché, mentre invece i significati dell'antropologo non sono pubblici, sono una tutt'al più, se va bene, una proiezione soggettiva dell'antropologo, che è quello che poi gli rimproverà Crapanzano. E quindi qui la sua cosa un po' non regge molto, nonostante i vari poi esempi che lui fa. Però non si può andare ancora avanti. parti. Concludo dicendo, attraverso tutte queste metamorfosi di questa nozione di cultura, nel senso che per Geertz la cultura è una costruzione per avere accesso, dell'antropologo, per avere accesso all'altro e ai suoi significati. Però poi quando fa ricerca sul campo usa tranquillamente la visione, l'insieme complesso, tutte quelle robe che prima aveva criticato. E finalmente arriviamo, diciamo, a quella che può essere considerata la fase postmoderna, se vogliamo chiamarla così, ma non basta, con la cultura di nuovo come testo. La cultura come testo lo è, abbiamo visto, lo è per Clifford Geertz, la cultura come testo lo è anche per una persona che la sorte ha voluto che si chiamasse James Clifford, quindi c'è una cosa che fa impazzire gli studenti, perché uno si chiama Clifford Geertz e l'altro James Clifford, parlano tutti e due della cultura come testo, ma intendono due cose assolutamente opposte. Mentre appunto per Geertz, Geertz è ancora impegnato a reinventare una scienza antropologica con l'aiuto della mediazione dei testi, e quindi il suo centro resta la descrizione sociale dell'altro. Con Clifford le cose cambiano. Il testo non è quello scritto dai nativi che l'antropologo deve interpretare sbirciando sulle spalle, sulle loro spalle, e quindi è. Ma il testo di cui parla Clifford è il testo scritto dell'antropologo. Che vuol dire? Naturalmente questa è un'impostazione molto critica di Clifford nei confronti della disciplina e su come sono state costruite tutte le etnografie che hanno, come dire, per un secolo, per quasi un secolo, per più di un secolo, insomma, hanno legittimato l'autorità etnografica dei loro autori. Per Clifford, mentre Geertz si è soffermato sulla fase importante che è la ricerca sul campo, quindi è lì che l'antropologo deve andare per mettersi, come diceva Malinowski, al punto di vista del nativo e cercare di strappare i segreti, che sono in questo caso i significati di questo testo che è la cultura del nativo locale. Clifford dice: no, io mi dedico a una fase che non è stata mai analizzata, e che è il ritorno a casa dell'antropologo, quando l'antropologo si mette a prendere, guardare le sue note di campo e a mettere insieme, un testo che diventa sempre un testo, che è una monografia in genere, si fanno monografie su questi poveri, sulle ricerche sul campo. Allora, quindi... Il testo di cui parla Clifford è il testo scritto dall'antropologo, e che quindi è una rottura totale anche rispetto alla, come dire, perché Geertz è uno che resta un po' ambivico fra due paradigmi, tra la modernità e la postmodernità. Con Clifford siamo ormai nella postmodernità, e quindi il testo è, in quanto scritto dall'antropologo, è la rappresentazione antropologica dell'altro, mentre invece Geertz ancora aveva interesse a dare la descrizione sociale dell'altro. Quindi c'è proprio una rottura. Anche e qui veramente la cultura, io mi fermo, diventa un testo scritto dall'antropologo e con delle procedure testuali molto particolari, e con Clifford l'antropologia si ritira dal mondo dentro il testo, però appunto la sua ha una funzione non assertiva, di messa in discussione delle maniere in cui è stata confezionati i testi antropologici ed è stata costruita buon parte delle monografie antropologiche. Lui dice sempre che la cultura e il nostro sguardo su di essa sono prodotti storicamente, la cultura è contestuale, temporale, emergente. Ora, quello che io non ho detto, che forse era la cosa più carina da cui cominciare, ma non mi fermo subito, è l'autorità etnografica, che penso forse potreste tirarla fuori voi, volendo, che è qualcosa che anticipa, cioè la Malinowski e anche Radcliffe Brown, che sempre nel quel famoso 1922 pubblica anche lui, che è l'altro grande funzionalista, un testo importante di un'etnografia nelle isole Andamane, che è il titolo peraltro del libro, e Argonauti del Pacifico. La cosa di cui erano più preoccupati sia Malinowski che Radcliffe Brown è dice, ma come possiamo persuaderli che quello che diciamo è così e non è altrimenti. Cioè cioè cercavano una convalida, che poi viene l'autorità etnografica. Su cosa si basa l'autorità etnografica di colui che è stato là? E lui ha detto appunto l'importante, lo anticipa un po' Geertz e poi lo svilupperà molto meglio Clifford, è il fatto di essere stato là che diventa legittimante di quel appunto particolare etnografia. Però per essere legittimante non basta questo per Clifford, ma molto dipende anche dalle strategie testuali adottate. Io mi fermo. No, voglio ringraziare Carla perché al di là del modo apparentemente colloquiale con cui ha tenuto la sua lezione, io ho trovato un discorso impeccabile, molto complesso e tenuto sotto un saldo controllo, cosa veramente molto difficile e che insomma richiede davvero un'autorità magistrale. Grazie Carla. Io sono commossa di queste parole. E sentiamo adesso i due perfidi, i due, come dire, vipere covate in seno da me stesse. No, bravissime, però saranno vipere ma sono brave. Anzi, più sono vipere, più sono brave. Comincio io. Ma il compito però è ingrato, nel senso che penso che... Lei si chiama, scusate, perché visto che nell'invito non si capisce per quale ragione i discussant non vengono messi, che secondo me... Va bene, ma si deve quello altrui. Ma scusami, perché poi hanno il compito più ingrato, perché uno viene lì, non si sa cosa dirà questo libro. Tutto apparirà nella pubblicazione. Benissimo. Comunque, Simona... Michela Fusaschi, autrice di libri molto belli. No, grazie, troppo buona. Ma intanto io ringrazio per l'invito. E devo dire, non sarò molto cattiva, nel senso che mi sembrava di risentire con una grande sintesi, perché secondo me per chi non è avvezzo al linguaggio antropologico, Carla ha fatto in 40 minuti, secondo me è quello che noi facciamo, credo oramai in pochi mi viene da dire, a lezione per in poco tempo, anche a lezione perché abbiamo moduli corti, almeno io ho moduli corti, però comunque spalmati, perché è il verbo che si usa di più, in almeno 30, 40, 60 ore. E quindi con una grande efficacia, toccando tra l'altro, non so se questa per te, degli autori che io personalmente ripercorro a partire dalla conquista dell'America di Todorov, perché mi sembra che poi soprattutto i più giovani abbiano bisogno di ripercorrere un pochino quello che sono i cardini di una disciplina, e poi arrivo anche alle domande, che è sulla bocca di tutti e poco. Io sento anche nel linguaggio politico cambiamenti antropologici in tutti i pizzellazzi. Poi se vai a chiedere a qualcuno che cos'è l'antropologia, nessuno ti sa dare una risposta. Credo che poi ci sia anche un demerito da parte di noi antropologi, non voglio negarlo, nel senso che noi ci facciamo sempre del male da soli. Però dall'altra parte, perché non penso che alcuni argomenti che si dice sempre sono stati sottratti a noi antropologi, se ne occupano altri, non credo che ci siano sempre soltanto dei furti, ma che anche noi antropologi spesso ci siamo lasciati, abbiamo lasciato dei vuoti. Quindi io in questo ti ringrazio perché hai fatto una sintesi molto molto efficace, e ti vorrei un po', se posso usare questa espressione, sfrucugliare sulle cose più, diciamo, più legate alla nostra anche attualità, perché mentre tu parlavi in particolare sull'ultima parte, mi veniva in mente un saggio di Ulf Annerz, che è un autore che si occupa soprattutto di questioni legate a, diciamo, all'antropologia urbana, almeno nel mio, e anche del locale globale, che in effetti è la domanda su cui vorrei un po' sfrocugliarti da questo punto di vista, perché Ulf Annerz pubblica, tradotto dal Mulino, purtroppo in Italia molti libri non sono stati tradotti a partire da quello del 1871 di Taylor. Annerz è stato attivamente tradotto dal Mulino, e in un libricino che si titola proprio La diversità culturale di qualche anno fa, lui dedica un intero capitolo, ancorché breve ma insomma abbastanza efficace, proprio rispetto alla cultura. E perché diciamo, noi antropologi siamo quelli che aggettiviamo l'antropologia con cultura, dopodiché siamo i primi feroci, accaniti, critici di questo concetto, perché lo usano tutti, lo abusano tutti. Nelle retoriche della migrazione sta cultura è il ritorno al primitivo, io sono convinta che c'è anche un ritorno a una fase neoevoluzionistica, soprattutto nel linguaggio politico, anche molto grave e pericolosa, dove c'è sempre l'altro che appunto deve stare a Lampedusa perché ha qualcosa di meno, quindi non ha ancora raggiunto lo stadio della civiltà, direbbe, ma sta ancora allo stadio della barbarie. E Annerz, nel ripercorrere questo, il concetto di cultura, dice: ma allora noi antropologi questo concetto lo possiamo ancora usare o lo dobbiamo buttare? Che è stato poi uno anche delle domande che ci siamo posti. Lui ripercorre le critiche fatte soprattutto dagli antropologi, e mi viene in mente quella di Abu Lugod, autrice tradotta tra l'altro da poco in Italia con un libro bellissimo che si chiama Sentimenti velati, sulla poesia e il sentimento delle donne berbere, molto bello, tradotto da pochissimo in Italia, appunto, che ad un certo punto scrive contro la cultura. Dice Abu Lugod: la cultura è lo strumento essenziale per fare altro, cioè si fa tutto, si dice tutto sulla cultura, quindi aboliamo il concetto di cultura, dice Abu Lugod ad un certo punto, dice non usiamolo più, perché se la cultura diventa poi quell'universo chiuso, incomunicabile, che ritorna a essere essenzializzato nelle retoriche, allora tanto vale non usarlo più. E lui, Annerz, accoda alla Abu Lugod altri autori, tra cui anche Gerz. E poi Annerz lo accoda quando dice che Gerz critica la cultura perché dice che la natura umana è carente e si innesta un qualcos'altro che completa la natura umana e la chiama cultura. E Annerz dice: ma allora come possiamo fare? Perché è vero che gli antropologi di fatto poi sempre hanno fatto un'interpretazione, anche sempre gli antropologi interpretano, quando fanno l'etnografia, intervistano e tornano a casa, fanno una selezione di materiali infiniti, per forza interpretano, non possono fare altro che interpretare, poi il come, quello è un altro discorso. Io ad esempio sono molto critica, anch'io mi schiero dalla parte di quelli che criticano Clifford Gerz, però dall'altra parte mi pongo il problema, il concetto di cultura lo riutilizziamo? Come lo decliniamo? Ci basta declinarlo in termini al plurale di culture? Lo pensiamo come un universo chiuso oppure troppo aperto? Come lo pensiamo oggi? Perché io ho una mia personale idea, ce l'ho, non penso che va buttato il concetto di cultura. Anzi, penso che però che vada declinato in una maniera diversa, che sia quella appunto del pensare le culture, ma che rimangono con la C maiuscola, perché anche quello è altrettanto pericoloso. Su questo vorrei chiedere un tuo... Io sono molto felice, poi dopo intervengo subito. Io mi interrompo perché non vorrei prendere troppo tempo, poi casomai... No, ti ringrazio perché tutta la parte che io volevo dire, che mi interessava di più, che non ho detto. Naturalmente, Ecco, Abu Lugod in realtà dice qualcosa di leggermente diverso rispetto a quello che hai detto tu. Non è che tanto per fare l'altro, lei dice making the other, cioè costruzione dell'altro. Cosa contro la cultura, dice la cultura è stato lo strumento attraverso cui noi abbiamo costruito l'altro. E quindi ha sostituito, la cultura ha sostituito il vecchio concetto di razza per stigmatizzare l'altro. Ecco, di fatto lei dice un po' questo, completando il tuo discorso. E naturalmente questo è un rischio davvero ed è da discutere. La cosa però appunto su cui io poi non ho tirato le fila, ti ringrazio veramente moltissimo per avermi fatto queste osservazioni e anche dato questa possibilità di completare il mio discorso, è perché poi io nel frattempo mi ero un po' dimenticata da dove ero partita, perché capita alla mia età, che era l'insieme complesso. Allora, questa nozione di insieme complesso, che non a caso appunto è stata attaccata da tutti, che però poi tutti quando andiamo sul campo la recuperiamo perché è utilissima, perché se no non si potrebbe fare etnografia né niente, per cui c'è già questa schizofrenia, ma a parte quello, è che ha costruito una idea di cultura come una monade senza finestre, cioè come un universo complesso in sé conchiuso, quindi estremamente a sé stante e quindi scarsamente permeabile, che si è visto che sul piano poi, per esempio, perché poi tutti naturalmente facciamo non solo le nostre riflessioni su questi temi, ma poi cerchiamo di lavorare anche sul nostro tempo, e uno dei punti in cui diversamente, ma tutti e tre siamo impegnati poi, è il fronte dell'immigrazione, dei migranti, non più immigrazione, del razzismo, e dove la categoria in senso tayloriano di insieme complesso non serve, perché se noi, che ha portato a vedere da questa, da cui è derivata una cultura che è molto spesa, molto utilizzata in questi anni, che è il multiculturalismo. Il multiculturalismo è qualcosa che non significa niente, significa appunto, come dice sempre Giacomo, ghetti giustapposti, cioè culture una accanto all'altra. Non è tutta il più, se gli vogliamo dare un merito, è descrittiva. Allora forse dovremmo dire magari interculturalità, che va già meglio, ma allora dobbiamo immaginare una categoria di cultura che sia permeabile, che non sia appunto un insieme, una monade senza finestre. E questa dobbiamo dire che la dobbiamo, io lo amo moltissimo per questo, non mi è simpatico perché è un po' che è James Clifford, non mi è simpatico, non so perché, non l'ho mai visto, ma non mi è simpatico. Però mentre Geertz mi diverte, perché Geertz è, tutti abbiamo divertiti molti, perché ha fatto una grande frattura, per cui ha messo in discussione tutto con un tono molto irriverente. Ma soprattutto lui non usa un concetto, usa solo metafore. Allora, le metafore all'inizio a volte possono essere anche un po' snervanti, ma le metafore ci danno quel di più che il concetto non dà, no? Perché ti dicono a dire qualcosa di più. Lui questo riesce, tutti i testi di Geertz sono attraverso metafore. Non esistono concetti, ma quello che passa è estremamente permeabile per chi lo riceve, insomma. Allora, a parte tu, allora, detto questo, James Clifford invece, mi è antipatico, però ha, dopo questa, che trovo straordinaria questa critica che ha fatto agli antropologi, di come appunto che la cultura è il testo dell'antropologo, non è che lui la sostiene, un po' se ne innamora e poi sembra quasi che lo sostenga, in realtà è una critica feroce naturalmente. Ma dopo lui abbandona questo e scrive un libro, non mi ricordo come si intitola, in cui c'è questa cosa, culture in viaggio, no? Culture, strade, che anche lì, anche una volta ogni tanto, vedi che le metafore funzionano, perché poi lui prende questa, parla di culture in viaggio. Cioè, culture in viaggio cosa significa? È una categoria che funziona benissimo, se noi, che è quasi una metafora della condizione del migrante, peraltro, quindi i due soggetti, soggetto individuo che migra, che viaggia, coincidono, e dove c'è una permeabilità della cultura, un essere plasmabile, soprattutto che su cui la nozione di Tyro non la possiamo usare, non funziona, perché non è euristica per capire quello che succede oggi. Allora, cultura in viaggio di Geertz è essenziale per capire le nuove forme delle migrazioni, perché noi non possiamo, non siamo più, come dire, all'inizio del Novecento, fine Ottocento, in cui gli emigranti partono i bastimenti per terra salontana, poi chi si è visto, quelli rimanevano là e poi non avevano più rapporti con la madrepatria, tranne delle cartoline che ogni tanto quando vado a Ponza ci sono delle vecchie signore che me le fanno vedere. Ma adesso il migrante, non tanto non si chiama più migrante, ma si chiama migrante, perché la realtà della migrazione è una realtà di transemigrazione, nel senso che, poi detto meglio, secondo me è una categoria più impegnativa che io ogni tanto spendo perché a me piace, però poi comporterebbe altre definizioni, che sono migrazioni diasporiche, insomma, se detto delle diaspore. Che cosa significa diasporiche? Significa che il migrante che arriva qua continua a mantenere un rapporto assolutamente in presa diretta, in tempo reale, con la propria comunità di partenza, cosa che prima era invece tagliato per sempre, e con gli altri punti in cui la sua comunità è arrivata in Occidente. Quindi questa è una diaspora, oppure una transimmigrazione, indifferente, insomma, diaspora è una criticità maggiore, ma diciamo transimmigrazione. Cioè ha la capacità dell'ubiquità, di essere qui e là contemporaneamente, nel senso che la telefonia a basso costo, il satellitare, i voli low cost, internet a go-go, eccetera, fanno sì che mantengono sempre, si sentono sempre, cioè non staccano con la comunità di partenza. Questo incide moltissimo sul rapporto che si viene a stabilire qua. Io questo, che ho lavorato molto con le, sia io che lei, tutte e due, abbiamo lavorato sulla stessa cosa, sulle mutilazioni genitali femminili, e anche la mia amica Barbara Calamai. E quello che succede, che questa interferenza, che non siamo più in un rapporto a due con l'immigrato, noi e loro, ma siamo sempre un terzo che disturba, che è quello là in patria, e che interviene, per esempio nel caso delicato come quello delle mutilazioni, interviene moltissimo a pressare le donne che stanno qua a far fare la mutilazione alle bambine. Cioè, quindi interviene moltissimo sulle dinamiche di cambiamento totalmente alterabili. Queste sono le culture in viaggio di cui parla Geertz. Queste sono, Clifford, scusate, le culture porose, dove la porosità, come dire, le rende partecipi di una globalità che però pone dei problemi fondamentali, ma è su questi che dobbiamo misurarsi. Quindi queste categorie, che io sono assolutamente d'accordo con lei, bisogna ripercorrere i cardini della disciplina, anche se spesso sono delle cose che non servono più, ma altrimenti non capiamo come siamo arrivati ad oggi. E quindi l'insieme complesso di Taylor, che peraltro, appunto, insisto, sul campo lo si utilizza tutti, l'insieme complesso di Taylor non funziona in queste situazioni, e mi funziona molto meglio la metafora ariosa di James Clifford di cultura in viaggio. Ringrazio per l'invito, anche perché ho avuto il piacere di risentire Carla Pasquinelli in queste forsennate sarabande nella storia del pensiero etnoantropologico, che anch'io, come diceva la collega prima, non sarei capace, ma non in 5 lezioni, ma forse in 10. Quindi ho apprezzato molto la capacità di condensazione, la ricchezza degli spunti, e anche quello schema che lei ha proposto e che io, appunto, già conoscevo, e adesso posso confessare che qualche volta me lo sono rivenduto, perché effettivamente ha un'utilità. Esattamente come il concetto di cultura, a volte serve, anche la storia dell'antropologia può presentarsi come un insieme di fatti inintellegibili se uno non ha, come dire, uno schema ordinatore. Ed effettivamente quello che propone Carla Vaschinelli ha una sua efficacia euristica, anche se, come lei giustamente ha osservato, lascia fuori delle cose. Per esempio Majewski è difficile inserirlo, anche perché poi lui aveva una relazione, diciamo, particolare con questo concetto di cultura. Tra l'altro sarà uno dei pochi tra gli antropologi inglesi a servirsene, perché certo, loro preferiranno, daranno all'antropologia un altro, diciamo, termine di guida, che è quello di struttura sociale, insomma, perché si rifanno alla tradizione di Durkheim. Ecco, le domande ovviamente sarebbero tante. Ecco, in effetti mi dispiace che lei sia poi arrivata, insomma, un po' a fatica verso la fine, dove magari ci sarebbero state le cose. Forse bisognava cominciare dalla fine, e anche io non riesco mai a impararlo. Sono uno storicista di formazione, quindi comincio sempre dalle origini. Dunque, forse appunto avrei invitato Carlo Pasquinelli ad approfondire questo tema della crisi del concetto di cultura. Perché come lo pone lei, insomma, in quelle righe fulminanti che ci sono state inviate, insomma, lei le dice questo insieme complesso ha dei legami genealogici con la modernità, che lei ha ricostruito molto bene, così come ha ricostruito, secondo me, in maniera molto acuta gli effetti di ritorno, perché appunto ci si può definire moderni, pensare come moderni solo in rapporto a chi è arretrato, e quindi il concetto di cultura è un modo di della propria autointelligibilità, insomma, e questo è da subito. Ed è molto importante, lei me lo dice appunto con una formula, secondo me, molto incisiva. Ecco, detto tra parentesi, secondo me non è la questione, il difetto di quella impostazione non sta tanto nel fatto che sia uno schema, sia un insieme complesso, diciamo, in relazione, è che il problema è che gli evoluzionisti in genere considerano le culture come dei sistemi irrelati fra di loro, senza relazione, cioè è proprio per questo, giustamente, sono dei monadi senza finestra, sono degli insiemi che si trasformano, ma questa trasformazione, come dire, è autopropulsiva, c'è qualcosa iscritto, come dire, proprio a livello psichico, cognitivo, che spinge questi insiemi al progresso e li porta così a passare da uno stadio ad un altro. Ma non c'è una trasformazione, non viene, diciamo, adesso non possiamo entrare nei dettagli, solo quando proprio non riescono a spiegarlo, altrimenti ricorrono a quello che poi sarà l'indirizzo in qualche modo concorrente, che il processo di diffusione. Che forse non a caso anche Anners, che prima giustamente veniva evocato, dice, beh, ecco, quella è una tradizione di studi che andrebbe riscoperta, con tutta la sua problematicità, le sue carenze, insomma, era altrettanto etnocentrica degli evoluzionisti, però se non altro pone il problema delle relazioni fra culture come decisivo nel modo in cui le culture sono, e soprattutto nel modo in cui le culture diventano. Ecco, ahimè, poi non sono molto convinto che ci sia un evoluzionismo di ritorno nella maniera in cui ci immaginiamo gli altri che sono a Lampedusa. Io direi che è pre-evoluzionistica. Sì, sì. È peggio, perché l'alterità degli evoluzionisti in fondo è un'alterità, come dire, transitoria, perché quell'altro diventerà come noi. La legge del progresso è una cosa inevitabile, è automatica, è sottratta alla volontà dei singoli. Si diventa moderni anche se non lo si vuole. Appunto, con la civilizzazione al limite potevamo, come dire, accelerare il progresso di questi cugini attardati, di questi nostri parenti attardati, perché tra l'altro sono nostri parenti, facciamo parte della stessa famiglia umana, insomma, non era una cosa da poco dirla a metà dell'Ottocento, insomma. Mentre invece gli altri di Lampedusa, per come sono trattati e per come vengono rappresentati, si capisce che sono degli altri che non diventeranno mai come noi. A patto che non si usi quel termine terrificante che si dice integrazione. Sì, sì, ma non diventeranno mai come noi, perché lì, appunto, giustamente si è detto, beh, ma la cultura può essere un sinonimo di razza. Certo, può esserlo. In fondo la cultura ha sostituito il concetto di razza, ed effettivamente è stata una vittoria forse anche troppo pregnante. In fondo ha vinto, perché in alcune delle declinazioni che Carla Pasquinelli ha evocato, con quella di Benedict e di alcuni allievi di Boas, in effetti si sostituisce a razza, ma ne prende anche delle caratteristiche, le caratteristiche appunto di essere l'espressione di un'unità indifferenziata, intangibile, che cambia, ma appunto secondo i suoi percorsi. Quindi direi che nel caso degli altri di Lampedusa abbiamo a che fare proprio con un razzismo di differenzialista, ma anzi magari avesse una marca, un copyright evoluzionistico. Devo dire che quando ho ricevuto l'invito e ho visto il titolo, ero rimasto appunto subito colpito da una disparità, perché modernità e culture è appunto una relazione fra un singolare ed un plurale. E ora, giustamente diceva Carla, in questo pluralizzarsi dell'idea di cultura gli antropologi hanno avuto un grosso merito. Sono loro che hanno ampliato quell'idea classica di cultura fino a renderla ospitale nei confronti di quelle popolazioni cosiddette primitive, che per tanto tempo erano state considerate prive di una possibilità di cultura. Ora, quello che mi veniva da chiedermi è se all'antropologia non spettava di procedere, come dire, anche all'operazione inversa, alla possibilità di operare una pluralizzazione dell'idea di modernità. Se ci riflettiamo, avrebbe anche gli strumenti per farlo. Lei non ha avuto il tempo di dirvelo, ma nel frattempo la storia è andata avanti e c'è stato, come dire, un rimpatrio dell'antropologia. L'antropologia ha cominciato a volgere la sua attenzione alle cosiddette società complesse, tra l'altro risolvendo così un equivoco singolare. Per cui se la cultura è un insieme complesso, non c'è nessuna società complessa che può dirsi, come dire, per principio estranea ad un'osservazione antropologica. Io credo appunto che adesso una cosa importante per l'antropologia è assumere come oggetto la modernità nel senso di una pluralità di modernità. Adesso, insomma, è recentemente, non so, Eichenstadt ha parlato di modernità multiple. Ecco, un'idea che mi sembra molto reminiscente di quello che a partire dagli anni 50 Roger Bastide e Ballandier parlavano di modernità differenziali. A che cosa si riferivano? Si riferivano appunto a questo tentativo di essere moderni da parte di società in genere africane, sono degli africanisti gli autori che ho citato, che stavano appena uscendo, in qualche caso non erano ancora uscite dai processi di colonizzazione, e che però avevano già conosciuto prima di noi quelli che oggi chiamiamo appunto processi globali, ne hanno fatte esperienza prima di noi e hanno qualcosa da dirci. Hanno fatto un'esperienza, un impatto traumatico con la modernità e hanno reagito. Hanno reagito reinventando le loro religioni in maniera sincretistica, mescolando l'antico e il nuovo. Anche le loro forme di Stato sono appunto genere soluzioni di tipo sincretistico. Dico questo perché? Perché in fondo Il problema della modernità, almeno degli per gli antropologi, è che si configura in genere come una totalità unitaria, come una, appunto, in modo monistico, è una idea della modernità nella quale si deve entrare, ecco già questo termine, volenti o nolenti. Invece l'antropologia, con questa sua tradizione di studio, ci può dire che ci sono molteplici modi di essere moderni. In fondo la modernità non è qualche cosa, non è una discontinuità, una rottura che è già iscritta irreversibilmente nelle cose, ma è un processo che attiene un ordine rappresentativo e autorappresentativo. Sono idee di modernità quelle con le quali ci confrontiamo, quelle che si confrontano, diciamo, questi nuovi cittadini traslocali a cui accennava Carla Pasquinelli, che spesso si trovano appunto in bilico fra uno, due, ma anche più culture. Ecco, in effetti quello che volevo proprio chiederti è, secondo te, se l'antropologia ha qualche cosa da dire sulla modernità, perché nell'impostazione che un po' tu davi in quelle righe sembra ad esempio che c'è questo scontro fra titani, istanze moderne, istanze postmoderne, e i destini dell'antropologia dipendono un po' da come, senza neanche il conforto magari di poterti fare per l'uno o per l'altro, perché nessun esito ci sembra felice per l'antropologia, non ci interessa una riaffermazione di un paradigma di razionalità forte legata al concetto di cultura, ma neanche alla sua totale destrutturazione. In fondo, a rifletterci, per esempio, quando credo, non sono un esperto, quindi mi perdonerete se sono approssimativo, ma non so, la riflessione postmoderna attacca la modernità, dire va bene, ma è una forma ormai esaurita di legittimare e di autolegittimarsi. Insomma, che cosa dice? Dice che è una tradizione che ha smesso di tradere. Tradizione. A me passa da una lingua all'altra. Ho voluto mortificare, sì. Tradere. Della terza? Sì? Sì. No, non lo so. Tradere significa in latino trasmettere. Quindi, infatti, le tradizioni quello che fanno è trasmettere. Allora, la modernità è una tradizione. Quindi è un fatto culturale. Ora, la cosa interessante è che uno, appunto, può mettere il concetto di cultura sul banco degli imputati perché è legato a questa modernità compromessa, ma il concetto di cultura è anche, per certi aspetti, l'arma del delitto. Cioè, ci si fa giustizia della modernità dicendo che questa modernità è una tradizione, è un fatto di culturale. Quindi, se non altro, il concetto di cultura è servito a questo, insomma. Ha conservato queste valenze, come dicevamo tanto tempo fa, di stanza critica, valenze che per esempio non vorrei andassero perdute. Beh, sono le parole con cui Lévi-Strauss in cultura, no, come razza e cultura, proprio fa così, insomma, la cosa che ha più sorpreso, appunto, la distanza critica, proprio, cioè, ricordo questa storia deliziosa commentata sempre dal perfido Goerze, ma dallo stesso, però narrata dallo stesso Lévi-Strauss, e lui aveva tenuto nel 1950, l'UNESCO gli aveva chiesto una conferenza magistrale razza e storia, in cui aveva consumato tutti gli stereotipi antirazzisti andati a segno: non è la razza che influenza, ma è la cultura che influenza la razza. Tutto era andato a posto stupendamente. Dopo 20 anni, quindi, era stata magistrale, razza e storia, come mi ricorda attualmente lei, che si chiama. Dopodiché, dopo 20 anni, gli chiedono un'altra straordinaria lecture, che lui intitola appunto Razza e cultura. lui fa la sciocchezza di mandare due giorni prima all'UNESCO il suo paper, dice quello che, cioè la sua, il contenuto della sua relazione scritta, che genera il panico nell'UNESCO, perché lui, il vecchio e prestigiosissimo etnologo di cui si è celebrato nel 2008 nel suo totale assenza, il suo 100 anni, ed è stato dove si sono sprecati articoli perfidi dicendo uno sopravvissuto alla sua fama, quindi delle pugnalate mostruose, l'unico è stato Remotti che l'ha recuperato, allora, in cui lui lì in quegli anni ancora era molto prestigioso, mette su un discorso che era proprio il contrario di quelli che loro volevano sentirsi dire. Allora hanno fatto di tutto per non farglielo fare, per fargli fare dei tagli. Lui ha fieramente resistito, perché quello è di tutto ad un pezzo. E allora il presidente dell'UNESCO, che presiedeva questa, come dire, che era il moderatore, come il Gabriella, la Gabriella Bonacchia, ha preso la parola parlando per sottrarre tempo al povero Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, imperterrito, correndo, l'ha letta tutta. E poi perché loro non volevano questo? Perché diceva, insomma, questi stavamo distruggendo un mito. Loro volevano che io rifriggessi, usa proprio questa parola, le stesse banalità sul, dopo 20 anni, sul razzismo. Non si può più usare quel tipo di rifriggere di nuovo, che non è la razza ma è la cultura che fa le differenze, eccetera eccetera. E lui è andato dritto dicendo proprio il contrario, che benissimo, eccetera eccetera, però dice una certa distanza tra culture va tenuta, perché altrimenti si rischia ogni cultura di perdere la propria specificità, la propria individualità, facendo una critica molto intelligente peraltro all'UNESCO, che è una critica che ricorre anche oggi, dicendo non il razzismo è una cosa, l'etnocentrismo è un'altra cosa, perché una sorta di etnocentrismo è anche quello che tiene insieme il sostrato culturale dell'appartenenza. Il problema è di individuare quella soglia in cui una postura etnocentrica non diventi una posizione razzista. Ecco, allora lui aveva preso questa distanza e aveva detto ci vuole questa distanza tra culture, e appunto, e poi dopo l'UNESCO inghiotte qualunque cosa se l'è inghiottita. Adesso io devo fare, vabbè. Allora, torniamo un'altra cosa. Ecco, quindi oggi è vero, cioè il razzismo è tornato il razzismo, proprio quello grezzo del colore della pelle, botte da orbi, inferiore, sporco grego, quello che appunto, quello con i vecchi stereotipi. Quindi a quel punto razza e storia ci vorrebbe, perché di nuovo bisogna negli anni 50 bisogna ripubblicarlo, perché dopo questa razza e cultura di Lévi-Strauss è partita un'ondata pazzesca in Francia, che hanno elaborato il nuovo razzismo differenzialista di Taguieff, che è, di cui gli antropologi sono arrabbiati moltissimo con Lévi-Strauss, perché lui ha fornito su un piatto d'argento gli argomenti di sofisticati antropologici per costruire un nuovo razzismo. Questo nuovo razzismo ha preso la forma appunto di una costruzione che è quella tutti noi abbiamo sentito negli ultimi 20 anni dire da chiunque, no? Dice, scusate, io non sono razzista. Già uno lo sente questo, c'è già una sottoscrizione di razzismo. Non sono razzista, ma loro sono diversi, sono differenti, e quindi devono stare a casa loro, cioè proprio mantenere quella distanza che aveva detto, che peraltro è anche un po', non è del tutto sbagliata naturalmente, cioè quello che è passato poi per il razzismo differenzialista, che è stato assunto da Le Pen e che poi da noi, dalla Lega, no? Voi andate a casa vostra, no? Ritornatevene a casa, eccetera. Solo che oggi si sono sommate le due retoriche razziste, ed è è veramente, questo è terribile. La modernità. Io credo moltissimo che di modernità, che la posta in gioco, e voglio dire una cosa un po' più, sono assolutamente d'accordo. Un attimo, che avete detto talmente tante cose. Io devo dire tutte e due a Matteo Anders, io non lo amo molto, però... No, ma mica... No, poi è un simpatico signore, devo dire. Pascioccone, gentile. Ma, no, no, ma poi le sue cose sono belle, quelle sulla città sono bellissime, per carità, non era per quello. Dicevo che su questi temi mi pare meno incisivo, però, però è importante invece lo spunto che entrambi avete tratto da questo. Allora, sulla modernità. Io credo che la modernità, non so adesso, ma è la posta in gioco del nostro presente, ma è una posta in gioco che va oltre l'antropologia, naturalmente. E io credo che, per esempio, facciamo qualche cosa che vorrei non fosse fraintesa. Io penso che tutti ritengono che il fondamentalismo islamico sia qualcosa di retrivo, di qualche cosa di terribilmente arretrato, di... Allora, intanto cominciamo a rimettere i paletti storici, perché il fondamentalismo islamico nasce nella modernità, nasce negli anni 30 in Egitto come una, come dire, frontiera avanzata, e la posta in gioco per il fondamentalismo islamico è il governo della modernità, ma una modernità diversa dalla nostra. Questo vale anche... purtroppo, anche per il fondamentalismo islamico, quello più retrivo per il momento, non, indipendentemente, mi raccomando, non voglio essere fraintesa. Mi riferisco a un fatto molto specifico che riguarda di nuovo le nostre mutilazioni genitali femminili. Negli ultimi 10 anni, da una decina d'anni, sto parlando della Somaliland, che era la Somalia, ex Somalia britannica, che ha mantenuto un governo, mentre invece la Somalia italiana, non a caso il colonialismo ha dei tentacoli lunghi, insomma non è un caso che poi è ridotta in quel modo, insomma, perché credo che il dominio coloniale italiano sia stato molto più destrutturante di quanto non sia stata l'indirect rule britannica. Comunque nella Somaliland stanno arrivando, dove ci sono donne appunto con, sta arrivando il fondamentalismo islamico, il clero islamico, il quale clero islamico ha intrapreso una battaglia di modernità nei confronti del vecchio clero tradizionale. Secondo il vecchio clero tradizionale, le mutilazioni genitali femminili, in particolare quella che si fa lì, che è la più dura, la più terribile, che è l'infibulazione, è una pratica religiosa, no? Il clero fondamentalista invece dice no, non è una pratica religiosa, perché il Corano non ne parla. C'è una sola hadith che dice, in cui Maometto dice tagliate poco, non vi racconto cos'è l'infibulazione, penso che lo sappiate, tagliata di tagliare poco, quindi, però è una hadith spuria. E in ogni modo loro l'hanno preso come un modo per depurare depurarsi delle incrostazioni. Il ritorno alla modernità per loro è il ritorno al testo, alla verità del testo, attraverso cui, perché il futuro si fa sempre con un passo indietro al passato delle scritture, rispetto alle quali la modernità viene promossa proprio attraverso un'interpretazione delle strutture che le libra delle, come dire, delle incrostazioni retrive della tradizione del clero tradizionalista. E in quel modo loro hanno proposto di fare la sunna, che è una cosa meno grave, e quindi hanno liberato, almeno si dice, le donne dalla pratica più lesiva, infibulazione. Perché la posta in gioco per loro, nonostante questi, appunto, tutto l'alone terribile che c'è intorno, ma la posta in gioco è il governo della modernità, ma una modernità che non è quella occidentale, ma la loro modernità. C'è una posta in gioco, ormai c'è una posta in gioco su questa. Ritornando poi ai nostri migranti che arrivano qua, e tu dici non diventeranno mai come noi, ma loro non vogliono diventare come noi, non vogliono proprio, non no, vogliono, loro dicono, nella percezione di chi li guarda, ovviamente, certo, non diventare, certo, però attraverso questa percezione naturalmente noi costruiamo la nostra agency di noi civilizzati e loro barbari che non diventeranno mai come noi. Però loro non vogliono diventare come noi, non solo per questo, ma perché semplicemente non vogliono essere una minoranza in uno Stato, non importa niente di avere la cittadinanza. Noi abbiamo pensato che a un certo punto diventasse una battaglia per avere la cittadinanza. Non vogliono far parte di minoranze marginalizzate. Questo lo si vede bene in paesi molto più avanzati su queste tematiche, che è l'Inghilterra oggi. dove tra l'altro tutte le nostre somale sono emigrate in Inghilterra e in Olanda, perché gli danno la casa, l'assistenza sanitaria, un lavoro e cioè non, quindi c'è un tipo di insomma, io credo che noi siamo in una svolta molto delicata oggi e che è molto difficile, perché poi abbiamo anche purtroppo questo vernacolo italiano che non si sa dove ci porterà, insomma, questo governo, questo che cosa da un momento all'altro può succedere, perché ogni giorno ne succede una, perché il Berlusconi che ha partecipato, a me sembra Berlusconi è un genio, io sono assolutamente convinta, perché ha capito tutto, perché lui è l'unico comunicatore, insomma, il povero Prodi si è preso Padoa-Schioppa come ministro dell'economia, doveva prendersi Umberto Eco, insomma, qualcuno che sa comunicare, insomma. Ecco, allora, la cosa geniale di Berlusconi è un genio. Allora, ha finalmente partecipato al 25 aprile. Poi che ha fatto? T'ha fregato e l'ha chiamato non più liberazione, libertà. Cioè, riconducendo, ha capito a un tratto, perché questo ha capito, che quello era il suo simbolo. Prima era il partito della libertà, diventato il popolo della libertà, e adesso è fantastico, è geniale. Cioè, però per questo è terribilmente pericoloso, insomma, perché poi c'è questo vernacolo che striscia dappertutto, insomma. Noi stiamo in un contesto molto più ampio che è il globo, e che va come va, ma stiamo in un contesto che è quello europeo, e stiamo in un paese... il vernacolo era detto con disprezzo, cioè il degrado italiano, brava Gabriella, il degrado italiano della politica, della società civile, eccetera, e ci pone dei problemi molto maggiori, perché forse probabilmente io credo che in Italia i centri come Lampedusa non ci sono in altri paesi europei, o perlomeno non hanno questa funzione terrificante. C'è una tesi molto bella di un, però si è già dottorato perché domani dobbiamo fare insieme un esame finale di dottorato di un giovane studioso che ha fatto appunto la tesi con noi a Napoli su Lampedusa, che è bellissima, dove tutta la macchina degli sbarchi, della clandestinità, della reclusione, è una maniera di costruire dei clandestini, perché poi dopo che li hanno segregati a un certo punto li mandano via col foglio di via, per cui devono tornare indietro, sanno benissimo che non torneranno indietro, e diventano manodopera a basso costo per le industrie e senza diritti. Cioè, a questo punto lui giustamente ha utilizzato la categoria di Agamben e Foucault di nuda vita, diventano nuda vita, non soggetti. Simonetta, vuoi dirci la tua? Sì, no, volevo soltanto dire che a me sembra di aver colto una cosa nel discorso che era fatto che aveva fatto? Quando tu hai parlato all'inizio. Lui? Tu? Scusa, stai parlando di Enrico Salerni? Sì, no, ecco, a proposito del richiamo. Di chi parla? Parlavi della struttura come un dispositivo che ci siamo dati. La modernità. Sì. Perché non per pensare in noi? Cioè, io mi sento tolto un oggetto di ricerca. E credevo che quando c'è stata questa allusione alle società complesse si intendesse anche un po' dire questo. Perché per pensare l'altro? E dell'altro stasera si è soltanto parlato. La sociologia non si occupa soltanto dell'altro. Si occupa di tutto quello che c'è, si occupa anche della vita normale, della cosiddetta maturanza, della cosiddetta normalità. Sì. Dove anche tu sei. La cultura, io ho insegnato sul progetto della cultura, che è un po' diversa dall'antropologia. No, io ti ringrazio molto, ma mi dispiace moltissimo, Dio, dove ho sbagliato, perché in realtà io ho detto dall'inizio, forse l'ho detto in maniera in tono minore, che il sapere degli antropologi è un sapere relazionale, dove parlare d'altro e mettere in gioco il proprio. la messa in questione continuamente in noi. Questo è il primo a dirlo, è stato il primo antropologo degno di questo nome, che è Ernesto De Martino, dove l'incontro etnografico è un incontro al limite, dove la messa in discussione non è dell'altro ma anche di noi stessi, perché insomma tutto il discorso sul rispetto umano. Sono assolutamente d'accordo. Tu dici ancora qualcosa in più, ora io l'ho usato perché penso che la maniera in cui noi abbiamo costruito il nostro rapporto con gli altri è un rapporto assolutamente iniquo, disuguale, e che attraverso il quale noi valorizziamo la nostra agency parlando dell'altro, cioè continuamente costruiamo sui corpi degli altri il confine tra noi barbari e loro barbari e noi civilizzati, cioè che è un rapporto assolutamente, abbiamo preso questa postura, ma assolutamente si può prendere, ovviamente anche noi facciamo antropologia del noi naturalmente, che però è qualche cosa di diverso, non so, intanto perché tanto la fate voi, la fate senz'altro meglio di noi, e perché appunto c'è stata, come dire, questa, come dire, la grande partizione, no? Il gran partage, grazie. Che, tra che social... è una cosa molto italiana. Molto italiana, non è così assolutamente, perché siamo arrivati tardi sempre, no? Le cose peggiori siamo sempre... Sì, e no, sono assolutamente d'accordo, mi spiace, è perché il mio è un tono, adesso ormai mi sono un po' fissata, ma forse non ha torto, perché continuamente noi ci rendiamo complici della discriminazione dell'altro, per questo io ho insistito molto su questo, e dove la messa in causa del noi sarebbe, dovrebbe... No, ma hai ragione, assolutamente ragione, e in effetti è anche un richiamo. Sì, diciamo, analizza, scusa, poi te lo leggo. La vita contemporanea, sì, certo, così nelle sue ripartizioni, nei suoi rapporti, nelle sue relazioni, non necessariamente soltanto nel modo con il quale pensa l'altro. No, ma io l'ho fatto solo oggi, in genere mi sono occupata del noi, ho scritto sul noi, ma è vero, però era solo oggi che era un po' un taglio anche polemico. Sì, c'era lui, c'era lui. No, comunque l'antropologia, adesso utilizzando un detto conosciuto, fa sempre un giro più lungo per tornare a casa, cioè, voglio dire, anche parlando di immigrazione, il momento in cui noi studiamo l'immigrazione, che peraltro, se vogliamo dire, è un terreno sul quale gli antropologi secondo me sono arrivati tardi, io mi ricordo quando mi volevo laureare, insomma io ho 40 anni o anche solo 15-20 anni fa, sì, un giovane studente voleva occuparsi di immigrazione, molti docenti di antropologia ti tiravano appresso, si può dire? Questo lo dico perché poi comunque, quando, anche se visto che parlavamo di Lampedusa, dal mio punto di vista fare ricerca in un condominio, fare ricerca su Lampedusa, significa parlare della società tutta, se prendiamo l'antropologia anche come ricerca del sociale o in una sua ridestinazione sociale, a cui io tengo molto ad esempio, penso che parla di noi, anche parlando del migrante poi parla di noi. Poi l'altro sempre altro, io e Carla, per quanto possiamo essere amiche, siamo sempre altro, nel senso che siamo, se vogliamo usare e continuare a usare queste categorie, no? Che poi fanno anche una, fanno poi fatica tra le discipline anche nella interdisciplinarietà che non c'è, se tra l'altro secondo me ancora se questo. Sì, in sostanza è così, e direi è così proprio in maniera inaugurale, cioè, sin dalle proprio prime performance, anche quelle che noi diremmo oggi più rudimentali, in realtà non lo erano affatto, come quelle degli evoluzionisti. Allora, quando loro vogliono, non so, Morgan prende come riferimento la promiscuità originaria, ma è la nostra forma di matrimonio che vuole ricostruire, quando vuole capire appunto come gioca la solidarietà di gruppo e quindi parte così dalle bande, dai cacciatori e raccoglitori, in realtà vuole gettare le fondamenta della comprensione dei nostri sistemi che prevedono lo Stato nella vita associata. Insomma, questa storia appunto del giro lungo è così. Direi che poi in sostanza si può dire che quando poi abbiamo avuto questa cosiddetta antropologia del noi, un'antropologia che studia le società moderne, ma questo non significa sempre misurarsi con la modernità, perché infatti inizialmente loro studiano gli antropologi che tornano a casa, studiano le campagne, cioè tutto quello che diciamo ancora di non moderno le società moderne recavano in sé, anche perché in questo modo potevano reimpiegare i vecchi metodi. Però tutto sommato poi l'operazione che fanno gli antropologi, questo poi bisogna vedere, che secondo me ha delle analogie con quello che fanno anche i sociologi, ma non credo tutti, è che mentre l'antropologo che lavora altrove cerca di rendere a noi familiare questo altrove, l'antropologo quando lavora da noi deve in qualche modo fare l'operazione inversa, defamiliarizzare. Cioè il suo obiettivo è quello, come dire, di una sospensione delle evidenze, degli assunti comuni. Esatto, deve pensare come se noi fossimo appunto un gruppo tribale con i nostri riti, con i nostri miti. Cioè deve, questa è un'idea anche per rompere con la modernità. La modernità non è quello che si è separata da ogni residuo simbolico, la modernità è dominata dalle logiche simboliche esattamente come sono le società tradizionali. Lo Stato-nazione non ha avuto bisogno di miti, non ha avuto bisogno di riti, e questo insomma ha sempre quest'ottica in un certo senso, perché quando un antropologo studia se stesso deve prendere una distanza a se stesso, insomma. Quando studia la propria società deve cercare di riprodurre, no? la stessa situazione, o dovrebbe, la situazione classica, che mentre in contesti esotici è data dal fatto che uno appartiene a una cultura, ed una, invece quando si lavora nella propria società lo si deve fare, come dire, quasi in maniera come opzione di metodo, bisogna, anzi a volte è anche più straniante, penso, per certi aspetti. No, grazie per averla posta, perché hai ragione. Volevo aggiungere solo una cosa, perché Moneta, quando la storiografia delle Annandre, quando decide di includere l'antropologia nelle metodologie di ricerca rispetto all'economia o alla sociologia, proprio Rodel stesso dice perché la sociologia pose le questioni, l'antropologia se pose. No, l'ha detto Leroy Carré, sì, per curare. No, sì, prima l'ha detto lui. Ah, sì? Quindi, io la cito sempre, ma come di Leroy Gourin, è bellissima questa, perché, perché l'antropologia ha la riflessività dentro, il fatto che voi fate ricerca sempre in un contesto in cui vivete, diciamo, di cui la forma di vita di cui fate parte, in cui siete stati socializzati, inculturati, eccetera, che invece noi è l'alterità che diventa l'elemento della criticità e dell'auto, della riflessività. Ma dall'altro canto ha anche ragione lei che spesso come no? Questa monumentalizzazione, no, dell'alterità. Qui non era una monumentalizzazione. Sì, però insisto, allora lì c'è però una postura epistemologica diversa, questo io insisto, perché c'è un elemento che è intanto una relazione, come dire, è una conoscenza relazionale, si basa su una relazione, e però è sempre una relazione assolutamente, come dire, segnata dalla discriminazione. Sì. E dove, quando io ho detto che il concetto di cultura è stato lo strumento, come dire, l'artificio simbolico per pensare l'altro, soprattutto per pensare se stessi come moderni e civilizzati rispetto all'altro barbaro, primitivo e arretrato. E cioè questa è una costruzione costante che fa l'Occidente, e questo io sempre voglio dire, credo che è una cosa che bisogna consigliare a chiunque, agli studenti, eccetera, i post-colonial studies, insomma, perché è proprio l'elemento. Staderini vuole non sbagliare. Rispetto a questo, un'ultima cosa, se non ci sono. No, ti volevo chiedere proprio la posizione, perché mi era sembrato molto interessante l'accenno, lo spunto che faceva il professor Sarnelli sulla questione del sincretismo, no? Cioè di una fase che le altre culture hanno già attraversato. Sì, questo era giustissimo, questo è geniale. No? Forse ci possono insegnare a noi. Sì, sì, questo è molto interessante. Credo che sia molto interessante. Pronto. E mi è venuta in mente la lezione di Bateson, greco di Bateson, sì, perché mi piace perché le cose stanno in disordine. Perché, no, quando io penso, perché mi è venuto in mente il libro di Mary Catherine Compone una vita, in cui si accenna questa, cioè lo sviluppo della lezione del padre un po' in questa direzione del sincretismo, cioè la sua critica all'uguaglianza, per esempio, e a i meccanismi di competitività che l'educazione all'uguaglianza tra maschi, adulti, eccetera, produce, no? E quali sono i correttivi che invece provenendo da altre culture ci possono insegnare ad affrontare tutto questo. E mi viene in mente che è interessante come in questo tipo di approccio confluiscono appunto Margaret Mead, come si chiamava, Sesso e Temperamento, cioè la sua riflessione sul primitivo nel moderno, no? Quali sono i lasciti, no? Arcaici e antichi nel moderno, Gregory Bateson che studia gli slittamenti fra nelle varie dimensioni del simbolico, perché la cosa interessante che lui scopre è che il simbolico ha vari, non esiste uno solo, esistono vari tipi di simbolico che però possono comunicare tra di loro, e quindi è in fondo questa possibilità di arrivare a vedere una vita che si compone di tanti tasselli e di tanti contributi. Certo, insomma, l'esempio di Margaret Mead è buono per tornare alla questione. Cioè, per esempio, Margaret Mead, quando fa lo studio della condizione delle adolescenti nelle isole di Samoa, ma ha un programma, come dire, di politica culturale molto preciso. Insomma, questa condizione delle adolescenze, che era sempre vista universalmente come, come dire, problematica in quanto fase di passaggio. Sì, però appunto l'americano universalizzava questa condizione. Lei, magari un po' imbrogliando sui dati etnografici, come si è scoperto dopo. No, non è così. Sì, vabbè, una storia, adesso non voglio entrare in quel dettaglio, ma in realtà lei vede, cioè ne trae tutta una serie di ammaestramenti, dire bene, loro hanno un'educazione più libera. Questa educazione più libera, più permissiva, rende questa adolescenza migliore, quindi una condizione meno tormentata. Quindi in questo caso non è il moderno occidente che deve fare da modello, ma semmai è l'Occidente che può guardare a quella situazione come modello. Ora non mi interessa se questo è costruito correttamente, se le cose stavano proprio così, ma per dire che cosa significa la relazionalità e il giro più lungo. In fondo, e loro lo fanno già con un'idea, perché quello che caratterizza appunto tutta questa generazione di Boas e dei suoi allievi, su cui appunto Carla Pasquinelli ha lavorato secondo me in maniera molto interessante, è che loro fanno molti interventi di politica culturale all'interno degli Stati Uniti. Intervengono su moltissime questioni, Boas per primo. Rosalba Capomacchia? Sì. Capomacchia. Rosalba Capomacchia. E appunto, quanto sia possibile trovare un dato in me, cioè se è possibile poi considerare questi elementi, non so, è il senso, l'azione universale dei diritti umani, questi valori, no? Appunto, l'individualismo, l'universalismo, cioè eccetera, quanto poi sia possibile trovare i vari insiemi delle situazioni, delle diversità mondiali, poi uno spazio che è comune, un linguaggio che ci permetta la comunicazione. Chi vuole rispondere? Io ho qualcosa da rispondere, forse voi no, prima avete. Possiamo abbozzare. No, una cosa è la comunicazione, una cosa è la koinè, no? Di cui parla lei. Dicevo, una cosa è la comunicazione, una cosa è la koinè, perché se lei dice koinè è già qualcos'altro. Io sono condiviso, certo. Koinè è anche un'idea di amalgama, no? O no? Sì, quindi andrebbe anche bene, no, dico meticciamente, eccetera. Lei invece diceva cosa trovare uno spazio comune. Cioè, troviamo quello che ci unisce. Troviamo quello che ci unisce. Per, ecco, va benissimo. Però mettiamo, io sono d'accordo con Paul Robineau quando dice che la dichiarazione dei diritti umani è qualche cosa che ci serve, è l'unico controdiscorso laico che possiamo spendere in situazioni appunto di oppressione, di avvarsi di varie culture. Però è anche vero che la dichiarazione dei diritti umani è una dichiarazione fatta da una cultura molto particolarista, che è la cultura occidentale, che attraverso cui però si propone come universalista. Tanto è vero che un antropologo che oggi che non abbiamo nominato, che si chiama Herskovitz, poco prima, quando la Commissione stava scrivendo la Dichiarazione dei diritti umani, inviò uno statement on human rights, una come dire, una memoria, insomma, a loro, perché nello stilare la Dichiarazione dei diritti umani tenessero conto del fatto che bisognerebbe introdurre anche la cultura, perché la cultura, sì, no, non parlava di relativismo, introdurre la cultura nel senso che un individuo non parla solo sulla base di un individuo atomizzato, ma un individuo esiste in quanto è quell'individuo perché fa parte di una determinata cultura, e che quindi tenere conto anche dell'appartenenza culturale, in modo che questa dichiarazione dei diritti umani non venisse stilata solo sulla base di una determinata cultura, che non potesse quindi valere per tutti, giusto? Perché è quella occidentale. Naturalmente loro non ne tennero conto. Molti anni dopo, una ventina d'anni dopo, sono cominciate a uscire nuove generazioni di diritti umani, nuove dichiarazioni di diritti umani, dove finalmente hanno fatto questo discorso anche di diritti umani, di rispetto delle culture. È andata a finire però che queste dichiarazioni che di seconda generazione sono entrate in aperto conflitto con la prima dichiarazione dei diritti umani. In un conflitto per cui finiscono per autorizzare delle cose che nella dichiarazione dei diritti umani iniziale del 48 non erano, non c'erano. E quindi dico tutto questo per dire che lei ha ragione, però gli strumenti che abbiamo utilizzato, che lei ha proposto, sono totalmente nostri, sono parte prodotti della nostra cultura occidentale. Per esempio l'illuminismo, anch'io sono cresciuta in una cultura e anche in un'università come quella di Firenze, dove c'era un grande filosofo che era Eugenio Garin, che l'illuminismo ce l'ha spiegato in maniera straordinaria, per cui io volevo fare la tesi nell'illuminismo, poi ne ho fatta tutt'altra. Ma adesso invece c'è tutto questo fronte dei post-colonial studies, che la prima cosa che mettono in discussione è proprio l'illuminismo. Questa era una cosa che l'illuminismo, però i primi avevano averla messa in discussione, erano state anche la scuola di Francoforte, Marcuse, Adorno soprattutto, cioè Horkheimer. Quindi è molto difficile, però la cosa che lei ha posto è importante. No, un tema di studio, un tema di confronto che dobbiamo confronto anche quotidiano che si pone. Sì. Certo, l'universalità non può essere una particolarità che si camuffa e si proclama universale. Cioè, quello che lei dice probabilmente appunto è più una cosa in fieri. È qualcosa di costruire, da costruire. Cioè, la Koinè, almeno, presuppone, come dire, dei retaggi che ci tengono assieme. Forse ci sono anche, perché in fondo gli antropologi devono sempre rispondere a due domande: in che cosa siamo diversi, ma anche in che cosa siamo simili. E quindi certamente se possiamo entrare in relazione, in una qualsiasi forma di dialogo, qualcosa in comune dobbiamo avere, insomma, non siamo delle specie aliene che entrano in contatto. Però questa idea di questa istanza universalista, per come almeno si è andata affermando nella nostra tradizione culturale, è sempre quella di una parte che si sente sovrana, si sente, come dire, totalizzante, al punto di dire agli altri che cosa è meglio per loro, visto che è stato meglio per me, e io sono il metro di misura e la norma di tutto. Ecco, questo nuovo universalismo al quale dobbiamo tendere invece dovrà meno ambiziosamente cominciare dal basso, da vedere appunto quali sono le istanze comuni che certamente nasceranno perché viviamo molto più in maniera molto più ravvicinata e meno distanziata. Sì, è vero, il particolare che si camuffa da universale è una cosa molto. Sì. Sì, una nota piccola, piccola. Il nome? Gabriele Lazzi. Gabriele Lazzi. Ha citato questo caso della Somalia, i fondamentalisti, a un certo punto ha citato anche l'espressione combattono per la gestione della modernità. L'ho detto in maniera meno diretta, ho detto che la posta in gioco è la gestione della modernità. Beh, lei ha ragione in questo senso, però noi siamo tutti dentro la modernità occidentale, vediamo quella, però loro no. Volevo dire, prendiamo una variabile e non partiamo, prendiamo il tempo, va bene? Il vettore tempo. Per noi la modernità è, come dire, il vettore verso il futuro, no? Quindi questo, la modernità il nuovo che invecchia, che è subito sostituito da qualcosa ancora più nuovo, no? Come diceva Vattimo. E prendiamo invece che cos'è un eventuale ritorno, cos'è, da dove è passato l'eventuale ritorno, diciamo l'eventuale, come dire, la posta, che cosa costituisca la posta in gioco per il fondamentalismo islamico a una modernità che non sia la nostra. Il vettore che viene utilizzato di tempo è il passato, nel senso che ogni volta che si fa una prospettiva, si cambia prospettiva sul presente, si fa un ritorno alle origini, cioè al tempo delle origini, cioè al libro, cioè il Corano. Ed è da lì che in fondo la modernità per loro è sempre un ritorno al libro, perché nel libro c'è, attraverso il libro c'è l'interpretazione, cioè perché non c'è come da noi il magistero della Chiesa che ci dà l'interpretazione, che fa da mediatore, che anche di tutti i nostri, ma c'è proprio il rapporto diretto tra fedele e il libro, come c'è per i protestanti. Non a caso il fondamentalismo nasce con i protestanti, poi tra l'altro il fondamentalismo protestante, cioè il ritorno al libro, il ritorno al passato, che è il vettore invece di una purificazione, di un tempo nuovo. Ecco, certamente è un'idea come dire intrisa di religiosità, questo tipo di passaggio, però io vedo in questa differenza, non è che faccio un giudizio, dico che passando, se noi vediamo il tempo, loro formulano i loro cambiamenti sempre facendo questo passo indietro verso le scritture, verso quindi il Corano, per un'interpretazione, perché non c'è una autorità che interpreta, no? È una religione ermeneutica in fondo, sia il fondamentalismo, sia l'ebraismo che il protestantesimo, insomma. E allora questo passo indietro per andare verso il futuro, noi andiamo invece diritti verso il futuro. Quindi forse lavorando su queste diverse concezioni, forse loro per cambiare qualcosa devono passare per il ritorno indietro. Per non fare, scusami, infibulare le donne devono fare un ritorno là e poi metterlo come un elemento di novità. Io la metterei in altra maniera, se ho ben inteso il senso della sua domanda. Allora, nella modernità, che ovviamente lei ha ragione, ha molte declinazioni, ce ne sarebbero tantissime, quindi quando si parla di modernità bisognerebbe mettersi d'accordo preliminarmente di che cosa si sta, a quale delle idee di modernità stiamo facendo riferimento. Sì, sì, va bene, siamo qua soprattutto del lato cultura stasera. Ma diciamo una cosa potremmo dire, che all'idea di modernità gli dobbiamo almeno riconoscere questo carattere di moto, di modo, la parola modo. Cioè la modernità è questo movimento incessante, questa trasformazione incessante. Ora se lei mi dice che la modernità è una e deve essere sempre quella, allora lei vede che in questo modo è una modernità che in qualche modo nega se stessa, nega il suo principio, perché il suo principio deve essere quello di trasformarsi continuamente, perché questa è la modernità, almeno come l'abbiamo concepita. Invece è come se la modernità occidentale a un certo punto avesse scelto, come si dice, di congelarsi, di cristallizzarsi in una forma che dovrebbe essere sempre quella. Giusto. E invece non può essere così, perché il principio della modernità è di trasformarsi, di rielaborarsi continuamente. Tra l'altro io non credo che questo appunto sia tanto una frontiera, perché il passato e il presente, l'arcaico e il nuovo lo mescoliamo tutti, anche noi, non solo... Fondamentalismo. Un autore che invece che mi è molto caro, molto di più di Annert, che è Amsel, in un testo che si chiama Connessioni, fa un'analisi anche del fondamentalismo, dice una cosa secondo me interessante, dice dietro ogni fondamentalismo si nasconde un culturalismo, intendendo per culturalismo un nocciolo duro, e quindi vedere le culture come essenze che poi devono come dire, combattere per avere qualcosa, perché se fossero porose sarebbe più semplice. Secondo me quella è una buona visione, perché poi in queste forme di riscoperta della modernità, di una nuova modernità, ad esempio in Somalia, secondo me c'è sempre un elemento terzo che è vado all'indietro per portarmi, io sono d'accordo, che poi secondo me non sono in contraddizione le nostre posizioni, cioè torno indietro per vedere di ricostruire un qualcosa che comunque secondo me spesso è in opposizione a una nostra, alla nostra visione. Una visione. Nome. Io conosco solo Daniela Francioni. Daniela Francioni, nota studiosa, nota filosofa Francioni. Un esempio di questa modernità è all'interno di noi, cioè della cultura che chiamano occidentale. Mi pare che una declinazione della modernità possa essere quella della nostra, del nostro progressivo allontanamento dai vincoli della natura. Potrei definire, dare la definizione di cos'è la natura, ma adesso la filosofo viene qua. Questa decrescita della nostra appartenenza alla natura, questa decrescita si accompagna invece una crescita di quello che potremmo chiamare vita personale. Sempre di più, cioè dalla vita biologica si passa a una vita personale. Oggi molti fatti biologici vengono incorporati sempre di più da un tipo di sensibilità, cioè da un tipo di responsabilità personale. Quindi modernità come un processo. In questo caso parlo del processo per cui da una vita biologica si passa sempre di più a una vita personale. Questo processo ha delle contraddizioni, porta con sé delle contraddizioni. Faccio per esempio riferimento a quello che accade per un particolare fenomeno di crescita di questa vita personale, quello della nascita con tecniche, facendo ricorso a tecniche di fecondazione assistita. Da un lato si vede il crescere di questa vita personale, perché rispetto a quello che un tempo poteva essere una impossibilità o il destino per una donna, avere figli, sono arrivati i biologi nucleari e hanno detto no, un momento, andiamo a vedere che forse si può fare qualche cosa. Quindi crescita di una vita personale. Questo però ha portato delle contraddizioni, porta delle contraddizioni che sono proprie del nostro tempo. La contraddizione, per esempio, per cui il corpo della donna rischia di trasformarsi in una specie di laboratorio sperimentale. Allora postmoderna, cosa contiene? Contiene questa tensione, contiene questa contraddizione, cioè la contemporaneità contiene per me, almeno io lo sento così, un invito ad abitare in questa contraddizione. Quindi non a fare come tendono alcuni a rientrare nella natura, come dicono che fece insegna, ha fatto Diogene di fronte alla botte, la botte, questo simbolo del grembo materno, della natura, giusto, non rientrare nella natura, ma neanche negare che queste nuove tecniche hanno dei rischi, portano delle contraddizioni. Quello ci impegna il poema. Ci invita a fare la contemporaneità, a mio avviso, e vivere dentro questa contraddizione. Bello. Sempre il nostro prodotto, è sempre uno sempre. E tanto c'è pure il politico che c'è da dire. Questo dicevo, infatti dicevo, una modernità declinata nel noi, questa, secondo questa esigenza. Va bene, grazie. La risposta che gli hanno dato è che non è l'unica, che sono la signore che non è l'unica, per fortuna. Ma l'antropologia non dà verità, per fortuna. Antropologia, cioè, sai che se veramente sarà antropologi ci dà una riflessività che gli altri. Noi gli diamo una pista a tutti, che stiamo sempre col senso di colpa. Io no, penso. Io senso di colpa non ci siamo, per fortuna. No, neanch'io, però lo dico in generale. Cioè. No, io li faccio venire. No, io sono convinta che l'antropologia ha degli strumenti che altri sì, ma che noi non sappiamo usare. Sono non parlo di noi due in particolare. No, sono da, assolutamente d'accordo. Se tu apri questo panorama degli antropologi italiani. Che pianto. Cioè, devo sciogliere, però se non mi ci assolutamente d'accordo. È stato molto divertente con voi. È bella questa cosa, invece che io mi pareva quando ho smesso di intervenire dicevo ma c'è rimasto qualcosa che mi aveva colpito, era questa cosa che loro sono molto l'ibridazione dell'Africa, dicono che bisogna scegliere come ricchezza di esperienza, è straordinaria, anche sofferenza vedete, però è straordinaria, infatti sono molto meno provinciale di voi. Viva. Wow, questa è una storia bellissima. Ah, devo sciogliere l'assembramento, dice, saluto e ringrazio, è stato veramente, non è per interrompere, ma no, no, io sono felice, ma Lucia Zannino è perfida e mi uccide se non chiudo. Grazie a tutti, no, grazie a voi, veramente, è stato molto divertente, per tutti anche gli interventi che sono stati tutti molto stimolanti. Questi si trovano in libreria genere, sì. Ah, la Vertigine? Vertigine è l'unico libro carino che ho scritto. L'unico libro carino che ho scritto. L'unico, le altri sono noiosi. Subito simultaneamente. Quello si trova, sì, è quello carino. Sì, dovrebbe trovarsi, ha fatto le edizioni, sì. Forse se non si trova più prima, subito basta ordinare. Certo, grazie certo. Per l'attenzione. Grazie dell'intervento. Chi ha detto modernità e cultura? Tu? Questa sotto, io non volevo usare. Modernità e cultura. Però è giusto. Ma non torna il proprio paradigma che avete sì, comunque all'inizio era penosa. Io non sento bene, però all'inizio ero inquieta. Eri? Inquieta. Però non mi imparavo presente. No, non lo facevo più. No, non lo facevo, non lo facevo da all'inizio. No, ma c'ha ragione, lui è perfido. Sai come lo chiamavano loro? Gli studenti dicevano. La Paschinella, sì. Quella che viene maltrattata dall'assistente. Ma ti assicuro, è vero. Io ho una venerazione.